Adesso adesso non mi sembra, perché si sente il rumore della ventola. Si sente una specie di ventola. Ah, magari c'è il computer vicino ed è per quello che ce lo tira il microfono. Ah, cappa. E beh, purtroppo. Ci sono anche queste cose qui, che fanno parte della vita. Da... Ah, non che stai parlando? E perché tu non lo senti? Ma non lo senti davvero? Non lo sento nessuno. Luca, dice che cosa non si sente? Luca Manicomio. Luca, ti hai chiamato, ma non lo senti davvero? No, caro, non lo sento. Guarda, vuoi stare, ma non lo sento. Cappa, no, adesso glielo dico a vedere. No, perché ha detto che l'ha appena acceso. Niente, dice che è freddo ancora, ma già sta scaldando piano piano. Luca, non ti sente veramente, no, Gianni? Ma, Luca? Questa parola non lo sento. Non ha parlato adesso. Sicuramente sta guardando qualcosa, da. Tu lo sentivi a Luca, da? Sì, lo sento. Non lo sentivo. Non so, io lo sento. Sto vedendo alla fine. Ah, non ti richiaccia. Sono unissimi. La carità. Poi le fa le ridomini oppure il ragazzo. Sì, c'è la bomba. Che finisce alle tre. Che finisce alle tre per la mangiare. Già sono voi. Ma gaffa, quanto parlo ti fai tu già? Sotto di mare. Magari uno si fa un panino così, ma è meglio sempre avere il piatto della pasta, una bella fettina, un bel pesce a secondo, con insalatina, vero Gianni? È che non ho voglia di sbucciare patate e mettermi a frigge, se no le avrei fatte anch'io. Si copre con le surgelate, Mario! Ma le surgelate rimangono un pochettino così, non mi piacciono molto, no? Le ho provate una volta, ma quelle sbucciate, lavate e tagliate fini fini, sono più croccanti rimangono. Tutti quanti che si macchini, vabbè, olio di girasole, olio di arachide, olio di questo, olio di quello. A me quando ero minore, mamma mia, sempre solo giù d'arriva. E non so, ma è pesante per friggere, guarda, sono lì, capito? È venuta pesante la roba. Gappa. Come sei già? Era così entusiasta di questa Olbia. Vabbè, ultimamente, proprio ultimamente, saranno 2 anni, 3 anni fa, forse qualcosa in più, la facevano le pizze anche, pizze a fare niente. Ma bene però. Però voglio votare la Riddu. Però Ebbene, che cos'è da questo? Che è andata la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la parlami con Gianni, ce la so, non voglio parlare più. Negativo? Io stamattina li ho rimandati in verso di cassetto, li ho rimandati giù, li ho rimandati. Ma ho parlato con persone, è tutto un traffico internazionale. E dillo a me. Fatto tutto stamattina, io non so più niente da aggiungere. Non voglio parlare più, quando vedi a Gianni, parlami con Gianni. Ecco, comunque io ho fatto un'altra cosa, che se non la ho telefonato a Triscia la notizia anche. E quello già va in automatico, qua se non vengono in ovvie. No, casomai se lo messo lì nel club, facciamo tutti insieme, ma neanche la protesta unica, hai capito? Scusa. Che i servizi li devo mandare prima di avere la merce, non era manco il contrassegno, perché altrimenti avessi fatto, prendo il pacco come te, che cosa, mondezza, sarà vestito di la cosa del padre, e invece tutto con pagamenti strani, no, non va bene così, tu a me me la mandi, sì, va bene, è contrassegno, ricevo la merce, l'apro, la guardo, se non mi va bene, richiudo il pacco e arrivo indietro. Basta portare un po' coi piedi anche chi compra, eh. Io sto comprando dalla merce, sì, usata, tutto quello che vuoi, ma no, non è che tu a me mi ripeti immondezza, o come ti dice qualcuno, garraggio. Hai ragione, ma vediamoci sopra! E io non me la so fare, per amico, è moglie! Ma l'ha saputo già! E io non so come l'avrei fumata, capito? Preferito mangiati di tutto e dare a loro. Non si sa se ne stanno mangiando. finito di comprare i giocattoli. Se no che c'è già, magari se può portare il microfono, l'MC85. No, no, l'MC85. No, niente, no, no, l'hanno chiamato così. A parte che lei che sono, no, ha chiuso i costi, veloci, veloci, 500 o 440, 100 l'alimentatore e 100 l'MC. In quella cifra mi prendo uno Yaesu 920 a seconda mano, capito? Questi sono fatti, credono che la gente è venuta a dare a piedi. Ho detto che 4,40 non si può pagare più di 400 euro, e invece è completo. Chi andi a truffare all'altro invece di truffare, rimuovono i mortali. Ciao, Patti. Sempre qua l'ultimo Yaesu, quello il 9000, quello lì, nella tua bacheca ci vuole. Quello ha detto mia moglie, se non mi compro la macchina, il prossimo anno me lo regala lì. Costa quasi 11.000 euro. Sì, ma dice che mi sono detto che c'è una versione, che addirittura è quella che c'è il doppio USO, Casino di Roma, che arriva quasi a 13.000 con gli OFF. Il doppio USO ce l'ha 9.20, già la so. Tu non l'hai visto qua il 9.20. 9.20 c'è il doppio USO, doppi comandi completamente separati. No. È tutta un'altra cosa quello, lascia più lì. Va. Lascia perdere. Arriverà anche quello, con pazienza, con pazienza. Quando me ne vado in pensione, vuol dire, quando me ne vado in pensione già mi lascio bagato. Che capo, sarebbe meglio fare una bella fortuna. Hai visto Natalì con le 9.000? Gente con un primo di guerra. Capo, però è forse che si soffre. Quello veramente. Oh, ti deludo comunque, non è una radio per le AM, perché già è difficile farlo funzionare in banda laterale quello, capito? È molto meglio il 7008 di quello. Io l'ho visto le fotografie, non è che se non c'è niente altro per giudicarlo, pensa tu, ma più che altro mi ha colpito il prezzo, porca miseria, ma come, cioè, vabbè che tecnologicamente avanzato, ma 11.000 euro sono tanti, non sono pochi, sono invece 22 milioni, non sono pochi, ma vabbè. Ok, il resto di chi c'è in bianco? Un po' il resto di Mario, che c'era tanto? In realtà, no, a me già mi piace ascoltare. E poi c'è quello che si cambia la moto tutti gli anni e c'è pure quello che ha la passione per le radio e si cambia le radio, tutto lì, non c'è niente da meravigliarsi, no. Uno diceva, sto lavorando, meglio un gusto che 100 malanni, striscia la notizia e vai. Ma io non li cambio, io ne compro uno ogni anno, non li cambio. Comunque Salvatore, se invece gli SWL ogni tanto andate ad ascoltare le frequenze, le vere frequenze amatoriali, dove in 80 metri, ti ho già detto, a 3007, 80 metri, c'è un grandissimo salotto serale da prima di cena fino a dopo cena e fino all'ora 10, 10 e mezza, 11. Ci sono dei grandissimi radioamatori che hanno il 7008, hanno l'FT9000, hanno apparecchiature d'alto livello e hanno già fatto le comparazioni, così ascolti, lo ascolti come modula, ascolti le differenze tra uno e l'altro e senti cose veramente utili, invece di andare ad ascoltare le barche che stanno caricando i pesci. Hai ragione, no, sono altro che lo va a fare sotto lì, no, effettivamente sì. A 3.000 veramente c'è tutto da imparare, c'è tutto da imparare. E non è stato qui, c'è tutto un po' che mi dice, ma lo aggiungiamo altro, e lo so io. Ok, visto in via, comunque c'è bene, se ti interessa, sarà la cosa che sono un bel po' di galassie. Ah, non mi fa l'idea adesso, non mi fa l'idea. Guarda, il galassie si è diventato come la compressa delle... quello c'ha le sensazioni di stomaco, per me quel nome ne vedo così. Andare, inchiodiamo il rosso. Già, facciamo un po' di questo io, che mi metti in vera, è quella. cui penso io già la storia. Ma non ti vergogni. Ma hanno pagato 300 a me. Funziona, ma è troppo fino all'R58 confronto al metto io. Capito là il discorso? Amatoriale, da, perché a riempire il setto di antenne non va bene, e invece magari mettendo due dipoli giusto per ascoltare va bene, se non sono troppo grandi vedrò di attrezzarmi anche io. Ne basta uno di solo per ascoltare, capito? Io ho fatto un diploma, non un diploma solo, figurati. K, però bisogna vedere quanto diventa grande questo dipolo, perché sennò diventa uno schifo, capito? E a me mi interessa per ascoltare le bande amatoriali. E buf. E ce l'hai già il dipolo per ascoltare le bande radioamatoriali, non c'è problema. No, quello lì fa una frequenza solo, ascolta. Ma giudico i vasi tutti. Per ascoltare va bene. E quando ci troviamo in verticale, Natalia, ne parliamo, da. E ti sto dicendo che io l'ho fatto con uno di quelli. Adesso io facevo multibanda. Però per dire, quello che ho io è la seconda che è troppo grande, capito? Per ascoltare va bene quello che hai tu. Che gli assunti sia 40 che gli 80, gli assunti, lo che mi occupa. Poi 20, 10, gli assunti tutti, per i 10 metri va bene la verticale. Gaffa, non lo sapevo, io pensavo che non andava bene per i 10 metri la verticale. Io pensavo che era solamente per la 27 e per qualche altra banda che c'era lì vicino alla 27. Io sono ignorante in materia, non disco. Tu se te lo sto dicendo io vai tranquillo. Ciao, Flavio, come la fa a visita la schiena che gli passerà? E insomma, non sono messo bene ancora. Ciao, ma rientri il 10? No, faccio il suo mezzo di marzo. Solo mi ha detto devo fare quella roba lì, capito? Adesso vediamo. Ciao, ciao. Ok. Se Luca è un po' in fare un parcheggio, riprendi Luca. Luca non ci deve essere. Stavo dicendo, mi fa parlare a Claudio, che ne fa di antenne. O Mario. Quando mi trovo in verticale, lì, secondo come va, domenica mattina, ci troviamo, facciamo colazione, poi ci accostiamo poco. Siamo lì, sì, la voce di via. Oh, salvato, mi sembra che tu con un amico, mi hanno messo quel materiale, io c'ho una di 5 euro pronta, mi farò quella piccola. Thank you. sì, e me ne sono fatto una mazzata. Quello da quello per le masse mi sono fatto là, la 3-2 mi sembra, 3-5. Se ti serve tu anche per fare, come si dice, anche nel caricare lo vedi? Come? Hai fatto un ricarico di farle. Quello ci vuole avere il 58 per fare il ballo. Ecco, faccio anche quello, intanto mi ho rotto sulla mattata. Ma io domani mi salgo, così almeno se devi prepararlo, te lo tutti su un tuo fatto a te. E io intanto lo facciamo insieme, ma è meglio che sto tieni tu il materiale da lì. Cappa, non c'è problema. Questa è quelle due specchie di coso, di quei tubi vicini, quelli per entrare in fili, tanto che capito là. Quelli gli servono per fare la paletta. Cappa, ci sono gli esercizi che stanno facendo l'impianto. Guardiamo, se non ce li prendiamo le calette. Se ce la fai a passare anche domani mattina o domani sera, come ti viene bene, ti porti via tutto. Assieme su l'antenna, perché io, la mia me l'ha fatta da sola, ma mi si darà ganna a farla. Sì, la facciamo insieme, così lo voglio vedere, così come esce. La facciamo insieme. Io domani mi porto già il materiale su, e poi se ti avvicini guardiamo gli esercizi, se vanno a serie ne prendiamo altra roba, se ci serve. Intanto facciamo l'impianto, ci sono quei tubi che... quei tubi dove passano il corrugato, non il corrugato, quelli rigidi, possiamo usare quelli come tubicini. Sì, quelle cannucce mi servono, tipo cannucce sono. Quelli mi servono per fare la scaletta. E ma ci sono, dai, domani ne prendiamo, io li faccio dare. E così ce ne sono anche tu. Va bene, quanto volevo dire? Ma ce la fai a passare, Natale? Sì. Vabbè, ti aspetto. Se faccio ogni mattina, ci sono ogni mattina, ma insieme, ormai sono tutto il giorno in officina. Quindi, quando vuoi farsi. Ok, così si tiene pronto il materiale. Riprendi Gianni. Alzare. E chi è? Come giovinare? Ah, dimmi, ma... Quando viene, dai un bacio in bocca, poi se te lo restituisco. Faccio mi avvicino, va. Cappa, guarda, se ti serve c'è una bella cicletta, Sì, ma fai vedere, ma... Cappa, va bene, così se ti devi mettere contro la schiena, va bene. Ok, dai, quello che ti serve me ne vado a avere un po' di calcio. Ciao, Natali, se ce l'ha, ti aspetto domani. Ciao, Mario, tu te l'ho già stato dove sono, quindi se vuoi passare, fai sempre piacere. Ci sentiamo anche noi nel prossimo. Claudio, lo stesso. Ciao a tutti, riprendi Gianni. Io sto lavorando, maestra. Se tu lo sai che appena che posso una scappatina me la faccio sempre io per salutare gli amici. Non ne ho problemi. Solo che purtroppo il lavoro non è sempre che me lo permette. Poi quando io esco tu sei già chiuso, così che bisogna pigliare il tempo come viene sabato. Cappa, ma no, purtroppo no, meno che ci sia il lavoro, Bianca che c'è, poi per queste cose c'è sempre il tempo, c'è sabato, c'è la domenica, e magari ci sia, ma magari, ce ne fosse qua di più, va bene, non... tutti la salina, se c'è le tre altre correnti per me. Sì, sta salvato qua la frustina. Pure che abbia l'occasione 5 minuti che vada a consegnare qualcosa, magari allargo il tiro e ci faccio un salto, là o là, sì, non c'è niente di sicuro. Ok, cambio vaso, ciao ciao. Sì, vamos. E allora Mario, Cicchina, Tattaglia, vedi, facciamo il mio sapato che andiamo pure già di maestrale. E noi bisogna discutere intanto. Per carità, bisogna essere di spirito allegro. E se no, cazzo, mi siamo prima dell'ora, vedi. Infatti, Cicchina. Sta meglio Natalì? Sì, sembra che si stia riprendendo. È meglio così, da almeno sei un po' più leggero, magari riposi un po' meglio. Beh, ma se ti dici sempre tanti fatti lui. E sembra che quando ne siamo vicini noi come cavare massimo Natalì. Così che bisogna avere un po' di pazienza, magari noi che andiamo a morire da eredità, siamo bici. Sì, guarda, so, ma è troppo, quando è troppo è troppo. Vediamo bene. Kappa. Beh, mi faccio per fare Natalì. Purtroppo è così e nessuno ci può fare niente. Quello che se ne sa, però devo fare qualche cosa, a me. Comandando lui io, sai. Babà, ti si vuol dire che mi... Puroghissimi, ne so. Io me ne vorrei andare a vedere la televisione, ho qualche risata, ma che fatto prima? Ma cosa, cosa vita? No, volevo andare a vedere la sera in TV. E tu invece mi sei entrato finito, mi sono trovato lui, sono entrato. Ti ho anche chiamato perché Claudio mi ha detto che c'eri e poi invece è sparito. Perché non lo sai quando spariscono, che non faccio in tempo a avvisare perché sto facendo qualcosa di là. Così fa la vita. Vuol dire che c'avevi qualche altro impegno che niente. Non è successo nulla comunque. Così è Natale, ma io mi esercizio invece a lavare, mi dai tu. E tu che avevi smesso di ripreso a fumare, dove? Là mi sono rimasto senza fumare, poi, e avanti fumo più di prima. Infatti, è sempre difficile di me. Ma gaffa. Mamma mia, io si mi fa ammazzare. Ma guarda la chissà. No, guarda a vedere, ho sentito una vocina piano piano. Anche io ho sentito una vocina, sembrava una vocina di femminuccia. Avanti chi vuole entrare. E sei Luigi? Come va sei così basso lui? Stai arrivando al livello del QRM. Qualche parola la capisca e qualche parola no. Tu Natale lo senti? No, io negativo Mario, non sento niente. Io ho sentito che Luigi, però è in mezzo al QRM, non capisco qualche parola, ma il più se ne va in mezzo al QRM. Infatti io non lo scusi per niente. Vabbè Mario, io ti saluto, mi vedo un po' di televisione. E poi ci si va a campare. Ci sentiamo domani a lui, ciao Mario, alla prossima. Ciao Natalì, buon pomeriggio, buon tutto e ce la riascoltiamo. Saluta la Gringallona a parte mia e niente, tutto alle prossime, ciao. Ciao Mario. Ciao. ci fosse nascosto anche. Io me ne faccio in correzione, alle prossime. Claudio, figlio di mamma. roba. Per chi sta ascoltando voglio fare l'educato, se no che ha visto, avresti visto che avrei aperto la Bibbia. Va bene, va. Sono qua in ascolto, comunque adesso vado a cenare e poi ci sentiamo. Ciao a tutti. Ma sai cos'è il brutto fra? Che non puoi avere uno sfogo con qualcuno, capito? Non puoi dire quello che vuoi dirle, e quello è il brutto. Infatti, io mi sono espresso con il B. Mi ha mandato tutto quello che c'è viva, ha detto che loro non riconoscono nessuna persona con quel nome, con quella codifica. Ah beh, aspettiamo i risultati e poi si vedrà. Vabbè, sentiamo dopo. Avanti, adesso buona cena, avanti. K dopo, ciao, buona carica. E Luigi dove è andato? Luigi! Mi sembra che abbia detto che stava scendendo la macchina che era in paese. Qua arriva forte. Qua la metà qua remetla. Santiago 5, radio una via. Cos'hai detto Luigi? Mi fa, sta scendendo la macchina, io riprendevo. Mi sembra vicino a fare a Wacco. Ah boh, non so. A dopo, ciao. Hola, la mia bassa la radio, ciao. No, più alto che bassa. Alta marea. Vediamo, va bene, dai, non è che sia una bomba, che va bene. Vabbè, da voi, la microfono originale, cosa a voi, gava. No, ma si sente bene, tranquillo. Adesso, stamattina mi sta a posto il motorino. Non mi ha detto le crebbe e una ciacca, ma è tutta. Io gli volevo chiedere qualcosina. Vediamo domani, come lo trovo. Poi si vado, mi compro le cuffie da... Come cavolo si chiama? Da, come si chiama? Da, no, da comprare l'altro. Un euro. Sì, ma tu dovevi dire, comunque mi devi dare tanto, cavolo. Aveva detto tu guasti in fronte, no vabbè. Quel lavoro lì minimo, guarda Gianni, minimo, quel lavoro lì è un lavoro di... Proprio esagerando, da un meccanico almeno un 80, 90, fai 21 rubù di manodopera. E che ne fa? I pezzi li ho cambiato, no, sono stati cambiati. E li ho messo più di maggioranza? No, 50 di R. Cappagappa. E beh, non ci ha mai sembrato nulla. No, ma di tu, cripa, scappa. E vabbè, non c'è problema. Non c'è problema. E vabbè. Ciao, devo vedere come fa. E tu non la diffonde? Qua. Se stavo lavorando, non ho più nulla, siccome non sto lavorando, insomma qualcosa no. Ma lo devo far dare. E vabbè, non me ne frega niente. Deve essere lui. Domani, quando farà... perché non so... Chi è? Dico, ma non ti ricordi che Bumba... Oh no, certo, infatti non se ne ricorderà, perché riconosco come sono fatto, perciò non me ne frega niente, già io lavoro glielo ho fatto, pure deve essere lui, non ne ho problemi, ci ho messo 3 ore, perché ho avuto dei problemi, che avevo un pezzo che aveva staccato lui, come stringevo la campana dei rulli, invece dei rulli si bloccava tutto. Oppure non si che va bene, insomma è impossibile, ho trovato spaccati i pizzi, poi ho smontato tutto, mancava una trasmissione, sembra che sia da 3 cm, 4 cm, tipo una rondola di quelle grandi, e ma so quella è un bombo, ma la prima accende. E lui non sento manco grazie, manco grido. Manco grazie, Mati, scusa, ma ci vediamo a trovare qualcosa, Mati. Ehi. Poi ci vediamo ad andare di là, la mia vita. Sono 18 anni, eh? Buona merda, tutti furbi sono. Ah già, se sto lavorando non me ne frega niente, ti la posso dare una mano, non c'è problema. Ragazzi, tutti qua, tutti a me vengono qui. Tutti a me. Vabbè, mi ha aiutato tante volte, poi non siamo messi, ha aiutato, quindi mi guarda a chiave, non è che mi ha aiutato a... insomma. Visto che lui stava volando, se mai lui non stava volando, non avrebbe dovuto battersi, ma siccome stava volando, se dice gli altri, allora... io la penso così, qualcosa gli avevo che per forza. Infatti sono rimasto lì perché lui è rientrato. E beh, stata, io gli ho messo i pizzi e poi le carenze che ha pensato lui. Allora, il cuscetto come l'ha cambiato, siccome c'era il cuscetto sballato dietro, dove c'era la campana. E è sballato il cuscetto. E beh, questo non l'ho mai cambiato, il rapporto non l'ha cambiato, puro ha giudizio. Infatti ho detto ci vuole Lulio, Lulio Montoro che tu non ne hai. Come fai? Se tu una volta che apri questa pulita devi stare tutto Lulio e poi non puoi fare niente. Tanto domenica devo cambiare il cuscinetto, dopo le ganasce e il rapporto originale devo mettere. Ma sono pure di bottiglia. Per carità, Gianni, lasciati lì, guarda, tutti avevano i cellulari, pensavano la sveglia, gli stanno la moto mi cammina, guidato, fai vedere anche tu, non metto lì in sedia, ho fatto tutto qua, tutto gratis. Ma come vuole voi, così io te la faccio pulmica e tanto, se no niente. Stavo ti stavo piazzato per 10 euro, ti sto per essere, e la mia ragazza di mia... a cosa? Lasciamo perdere qua, lasciamo perdere che è meglio, poi fa un prezzo, poi qualcuno, una persona no, che sta su, dove sto perso io, ma ho piatto lo stereo, ma che è mia moglie, poi arrivi a completo, gratis, mi gratis, ma bomba, calo portale, ma... Non ho già capito che voleva piattarglielo gratis, ma glielo piatto, non c'è nessun problema. Sì, vabbè, ma c'è un po' di coscienza, se la dello sta lavorando, dovrebbe essere là la chiarassi. Sì, vabbè. Va bene, non c'è problema. Anche quello che pensiamo gratis, non c'è problema, non ci sono disfili, cagati, non è che ci siamo tanti. Ma amici che ho piattato gratis, mi già. Sempre. E va bene. Poi quando tu mando io, cioè adesso prendi il mostolino. Poi c'è il mostro, adesso vabbè, questo mostro di voce adesso lo uso sì, però per legge non lo posso più utilizzare. Però quando anni fa avevo il mostolino, guardi anni tutti, lui me la pensa una volta, prendiamo la moto, lui mi accompagna, aiuta compagno, una volta sono rimasto a piedi io. Cadere la benzina, cado via qualcosa, la guido la ridasso. Io sempre prima, aiuto, sempre mai, se c'è misciata accompagno. No, sto messo io, ti porto, già ci sarà un po' di miscela per arrivare dove devi arrivare. Ma quando lo chiedevo io il passaggio, tutti erano senza benzina, dovevo fare cosa, ho guido, ridasso, hai capito? Ma non lo sai così, vedi tu che cosa dice? Quella fotografia degli amici, sapete, tutti in bagno, tanto gli amici si trovano, non hanno il bisogno. vabbè, infatti mi dice, ma lui dice, ma tu sei macco. Io una volta una persona gli ho fatto, aveva spaccato il motore della moto. E siccome si era spaccato il cuscinetto di banco, bisogna lì, doveva aprire il motore, cambiare i cuscinetti, era un casino, pure un po' di tempo. Allora ne ha procurato un altro. Era chiuso praticamente, i tagli pensavo questo direttamente, prima di piazzare l'ho provato, questo mattone era sotto acqua, la metà di antibiotico ha pigliato e c'erano i pezzi arrugginiti, l'albero arrugginito, proprio non si muoveva, e gli ho detto no, cosa vuoi fare qua? Cosa ho fatto io? E una mamma di CRC, io ho spruzzato tutta dentro, io me l'ho sbloccato. E niente, poi la moto, io ho praticamente ho fatto due motori, un motore mi è uscito bello di lusso, questi nuovi l'ho messo, e io ho detto guarda, amico, giusto per essere attivo, amico, dammi 60 euro e si è a posto. Che cosa, un male, bumba, ma che cosa sono di biglia? Vabbè, mi ha dato 40, mi ha dato 20 te li passo, tu mi ci dai 20 euro. Ancora da magari. No, no, la moto, la lancia, ne ho un'altra. Infatti la, quando è? Prima di darla la moto, infatti mi dica sempre sentito, due, vabbè. Infatti la volta mi ha chiamato lui, non so, io questa moto non me la intendo. E cioè, se la ricadiamo per carico, fatti cambiare la. Non so se l'ha cambiato l'impianto elettrico, mi sembra, non so cosa gli ha fatto, 120 euro ha preso. Questa è la macchina usare, se vuol dire, nella mercato. Gianni, già, a me fa l'auguro, mi dice, già. Ti capisco che non ne hai, vabbè, ti vengo incontro, non mi dai niente, non c'è problema. Ma stai lavorando, che stai dicendo, gli hai soldi, perché non fai? Il meccanico quando ti prende 200 euro, a me dammene 100. E sì, a posto, certo che stai risparmiando, no. Sempre più baci un brizio, sempre come voglio loro. Infatti, alla prossima, cioè, penso che non ci venga, non ci viene più da me, perché se viene, il prezzo è quello, lo faccio io, devi cambiare i pizzi, dammi il tot, no, la porto alla meccanica, qua. Prima di quel bagaglio, che se no da voi non vedo di lì. Ma fa un mollato, lui c'era sotto? Nessuno. Ho mollato, c'era qualcuno sotto. Sono troppo stanco, mi fumo una sigaretta e me ne vado a letto. E poi ha chiuso la posta, stavolta non entro neanche, rimango in ascolto. E io l'altra notte non rimanere in ascolto, e io vedo un mito. Ma che arrivo in tratto, mi sono curioso, hai sentito meglio le notte, no? No. La spaga, capo di rosmetro, va bene lui. Ma hai te combinato, come ha messo così basso? Sì, Luca, mi sei rimasto lì 9-10 qua, 9-5, 9-10, a 60 così, vedi tu che sei basso. 9-9. Ultima radio, cava. Dove ci sono andato? Non me la fatti nuda, ho preso 100 euro, ma non frega niente, se la fa lui. Ma si deve ammazzare in chi viene? A testa dei pannelli, quelli. Laterali, ui, sono i buloncini che vengono ben male, ma ti busco un giorno a attaccare un pannello io, e ci sono i bulloni sotto e dentro, un casino a mullarli, lui è già va, ui. Sono avvalato, sì. Adesso no, come fa, come è mollato, tu sei sparito, tu. Domani mattina, sperando che la giornata sia ultima, poi mi metto con l'antenna che dobbiamo piazzare, quindi raccimolo un po' di soldini, e su più a terra a terra. Dava gava, ti faccio sapere. E ciao Luca, mi sentite? Io me ne stavo per andare perché volevo fare un po' di lì. E invece. Poi c'è gratuiti, mi sono trattenuto, ma me lo sto per andare perché sono un po' più stanco. Che affare ha? E tutti due non ve lo so. Si vuole sentire già. Ma 100 euro, non è male, va. Io bisogna andare dentro, facciamo me ne hanno voluto una nuova nuova e non fissano le bande laterali. Nuova di zecca, non c'è un grasso, non senta, è più frequente. Fuori frequenza. Sarebbe amatoriale. Ah, ma io volevo vedere qualche cosa per la 27, ma non mi fido più. E vedi qualcosa per la 28? Perché stanno andando bene tutti e due, ti dico solo quello, sta molto attento. Non è che sia adesso, ma non era mai successo quello che mi è successo adesso. Insomma, i delinquenti sono stati in agguato. E siamo bel toccai, c'era un bel toccai 270 canali, ma bello, 78 euro. E la bisogna è questo, ne vuole. Questa roba di scariche, bubu. Che senti queste scariche? Troppo. Parlate di balacchi omologati. No, ma la scarica, 9-10 mi è arrivata questa scarica. E io lo dico cos'è. Ma se io ho usato lì, l'attila cos'è? È più parito, eh. E sono in paria. Ti ho detto che non scherzano. Perché se ne metto in vera buccia la banana. Non scherzano. Questa volta non scherzano. E fanno bene, cava cava. È lo lavoro, Claudio. Ti anda bene. Lucca, fare i malacchini, va. Ma se non mi date adito di fermarsi qua in questa frequenza, in questo canale, non frequenza. Questo è un canale, canale 10. Perché questo baracchino segna canale 10. Quindi io frequenza non le vedo qua. Vedo canale 10. Quindi questo è il canale 10, non è una frequenza. Ma per queste sono le radio HF. Va bene, è così è Luca, così è. Buonasera. Caro Gianni. Purtroppo, gli giornalisti ci sono buoni. Hanno segnato quelli là. Cava, che squadra è, bu? Ah, bu. Ma è il ritorno della partita che abbiamo fatto 3-2. Cappa. Ora siamo puri. Dobbiamo fare due gol. 2-0. Cioè, deve vincere... Nulla, sei fuori, è fuori. BRM è scritto, la squadra è, bu? Il Bayern di Monaco. Bayern di Monaco, buffoso, cava. L'altro è 0-0. Eppure la Juve. Pure la Coppa, meglio così. Almeno si dedica al campionato solo. A Raffa Truppo non andava bene. Non va bene. Non andava bene. E va in forza questa squadra. Stanno pompando la grande. Ma te la stai guardando? No, facciamo giocate più tardi. Facciamo giocate alle 8:30, invece no. Hanno giocato alle 8:30, sono le 9:30. Bubù. Ho capizzato un menù di orario, ecco l'ho rimaniato, rinnovi. E il Bayern è una bella squadra, sì. Poi il trasferto è ancora più forte. Meglio per loro, già va bene. Meglio così. Ma stavo dicendo, Luca, qua non si tratta di piangere due lampadine. Ho un difetto che c'è una radio, no? Perché in linea di massima va bene. Anche a me me ne hanno mandato una con due lampadine bruciate, me le ho sostituite, la radio è perfetta, sono contentissimo. Capito? Il bello è che in due operazioni, tre persone hanno perso 700 euro. Cosa già vuol dire? Ah, non sei nulla più. Che a Salvatore, a Gianni, a me ci hanno avuto 200 euro. Spiega Gianni che non c'è la faccia in terra. Già, se prima. Sì, Luca, un'organizzazione internazionale che ti fa fare praticamente i versamenti internazionali e poi l'olio di ti dà il numero di fasulli, si creano dei siti fasulli a conto loro, si creano la stella più grossa di beni, eccetera, eccetera, per la loro credibilità. Per quello che non ha più credibilità nulla, perché tu vedi la stella e mi dirà se sono quelle vuole o quelle che sono state clonate da loro. Sicuramente non sono tutti a loro, chissà cosa hanno fatto a noi. Vedi, Luca è stato più attento e gli ha risposto. E invece noi gli abbiamo detto di mandarci l'oggetto. Ma è voluto, non gli hanno mandato un oggetto. E Luca è più attento, più attento. Sì, Luca, la stessa cosa hanno fatto a me. Mi hanno mandato un'email perché io stavo cercando di prendere le baracchini perché volevo venderle a un amico. E mi hanno mandato un'email dicendomi che lui ci aveva un'offerta di 10 baracchini nuovi dentro la scatola a 300 euro. Capito? Ah, io ci sono caduto, e mi hanno bruciato. L'elenco, tutti i baracchini, capito? Tutto canto. Vabbè, non ci voglio pensare, ma se prendi già. E mi sono potuto prendere il fatto, le cose se le studiano bene, si creano i siti degli autotrasporti, di questo, dell'altro, ti mettono in visione l'apparecchio, puoi ingrandirlo, farlo, vederlo. Per carità di Dio. Una bella futura. appoggiamo, non vuole che ho mandato questa radio che vi sto su, attenzio io, ma non vale, se no pure il 50 di un pezzo. Se l'avrei pensato su io, scusa, perché se l'ho anticipato io. Vabbè, te l'ho detto ugualmente già mentre. Non c'entra niente già. Ho detto io ordinarlo. Prendilo, poi non so. E come fai se lo vediamo un po'? Andate. Oh, stai scritto ma è andato che sei sul forum di Luca. Di gente che sta affrontando questa storia qua di organizzazione. Allora, il gentile non ha debuttito, uno che fa la faccia della fotografia, un accenno che costa di tutti, un negozio. Dice nuova, di zecca, 3 anni di garanzia, tutto quanto, 600 euro alle bottiglie. Sì, mi ne butti giù, E poi sotto c'è una lettera, allora l'ho presa lì anche io. Perché la stessa... organizzazione, stesso pagamento, stesso tipo di pagamento, stesso nome, il nostro si chiama Fedor, per chi riconosce, ma... Sì, è tutto preparato, probabilmente qualche organizzazione internazionale, magari subito di usa per scoppi di armi, di cose, e che ne so, perché cosa li usa. Comunque noi abbiamo chiamato in Inghilterra, ma anche telefonato, ci ha risposto, subito ci ha risposto, immediatamente. Ha detto sì, ha detto bene, la magia, non ce la fa, no, dice la magia, no, vi sto regalando anche un viaggio. Sono fatti immagini di qualche cosa. Poi se adesso magari va al telefono non risponde più nessuno. Che praticamente in Inghilterra si usano un sistema, siccome ci sono le schede telefoniche solo per l'ascolto, praticamente lui si fa telefonare a quel numero e poi lo butta via, capito, no? Si spilla ma non risponde nessuno. Adesso abbiamo l'esperienza. Pazienza, questo discorso è pagare un apparato 50 euro in più piuttosto che comprare dei B. Tanto, guarda, si perde il B, con questa gente qua si perde anche lui perché la gente che la sera non viene più credito. Ma perché non parlo qua un negozio dell'usato, bro? Per carità, sarebbe buono. No, dice, un lato vai con l'antenna si deve trovare a parecchio, lo provi. Quello è il minimo già, cioè. C'è un'antenna, provare, vedere un po'. Poi magari, se c'è, però non sai, se c'è una lampadina fulminata, però per non lo stesso, poi lo metto a posto io. Niente, nessuno ci nulla, non ne fanno. Lo volevo fare io. Sì. Volevo farlo il negozio, cioè, niente. Sarebbe utile, dai, fammelo qua. Mi trovare che qualcuno si può permettere di prendersi un apparecchio nuovo, va lì, una seconda mano, giusto per iniziare, insomma. E poi apparecchiature per le maturi. E poi ci sono venuta, io vedo occhi stupidi, ma come la chiedo che si apre la stessa. Non lo so che si apre, boh, venuta. Ah, non c'è niente a posto bello. Qua c'è a posto bello. Non c'è proprio niente, caro Luca. Niente da fare. Lucio, i virani li ha incendiati, direi. Ah, c'era una volta via Milano, un apparecchio grosso, ma chissà cosa va via, era tutto quanto fragile. Via. E lì portano il televisore russo, magari con qualche difetto, però trovano per buono, e poi diamo il difetto lì, cosa fai? Via, non conviene. Non conviene. Come comprare una persona magari che ti garantisce l'apparecchio, però se chi è dice mi viene male, prende tutto per un baracchino, già dico già va, prendo, è buono, funziona bene, ma allora lo provi e no, ma ti dà problemi che non funziona bene, questo è stato, poi sai chi te l'ha dato, ma quando compri così ha stato la chiusa, mi divorzi, ti mandano, ma sono quelle, no. Sì, ma per cambiare se dai un accordo, se non funziona, ti telefono a casa e viene la ritirarsela, capito? Perché è successo anche a me, io l'ho lasciato che funzionava e poi a quello dice che non funzionava, vabbè, sono andato e avevo avuto, qua avuto le situazioni, ma... scappa avanti! Chi sei? Ma come ti piace? Chi sei, amico? Ah, tu li macchina la sera voce invece di fare un cadavere che hanno qua, vedi? E io ti sento 9 più 10 qua. Ah, te la voce, ma no, perché non ti sentono gli altri. Dove sei? Ma dove sei ai tiri? Vicino all'ospedale? Sto matto dietro, dove c'è pronto soccorso? No, ecco. Avanti qua. Ma un po' lungo, un po' ricoverato. Beh, si sta occupando il tuo malattio, no, manca a balla, lui, aiuta, su. Sì, con la tua ragazza, le stai dicendo che la ami tantissimo. È giusto così. È giusto così lui, è certo. E se no che ragazza è? Vabbè, scriviglielo. Se non sai come fare, scriviglielo. Guardalo con le carezze. Sì, scriviglielo in tedesco però, no, capisce. E ti sembra una mano, ricordi che c'è un amico. Che animoso Gianni, a chi ho già l'aggiovato? No, te l'ha lavato perché non sa come fare da prove, capito? Quindi potrei pensarci anch'io. Sì, devi dire, Lucia, io ti amo, da morire. Lui gli dimostra, glielo con i fatti. Ma te la conosce, Lucia, mi senti? Sono Ambrogio di Istri. Ma sei a Mascio? Cazzo di quale Lucia, fino, dimmi. Gaffa, stiamo scherzando. Vabbè, se non vuole parlare la salutiamo senza problemi. Cappa, avanti qua. Cappa, ciao Lucia allora. Sono di buon evento tu, o lui, invece buoniti Luigi, buon del vento, tu ci fai rente Lucia. Almeno è credibile la cosa, no? Ma l'avevo visto, dalla macchina c'è caduto. A metterti il vento anziché Luigi. Speriamo che finisca bene. Gaffa gaffa. Avanti Luca, riprendi il flipper. Non la cuffi. va bene. Arriva, già arriva bene qua, là. Già lo sentiamo noi. Se dice qualcosa già te lo diciamo, capito? Avanti, oh, Gianni, riprendi. Che stanco sono un po' così, io mi che te devo dire? Tutta quanta la passione che ho fatto con questi bastardi, prima se ne andati, non dura più. Vabbè, già, prendiamola com'è, ci abbiglia il luci. Adesso la mobiliata, cioè, non ti devi dire, prendiamola com'è. No, vabbè, prendiamola negli occhi, anziché prenderla dietro. Che mi stavano offrendo era interessante, era un'ottima offerta, mi sono buttato e quella è un'esperienza, io ci sono da poco, capito, è un'esperienza, però questo velo che tutti compravano, tutti facevano, pensavo fosse la stessa cosa, capito? E invece niente, quindi, vabbè. Vabbè, sarà per la prima e l'ultima volta che faccio queste azioni di questo genere, vai tranquillo. No, non ce n'è. Fallo col muro. Che bello. Ah, mia santa, comica. Ma è un segnale, no, Galluciano? Ma attaccato ce l'hai? No, non so attaccato. Vai, gratta, vai. Senti, attaccato. Hai sentito? È cambiato. Sì, ma è 9.40 ciclo, eh. Uish, allora funziona, chiusola. No, ancora no, così sono attaccato, al 50, là. Ecco, così sono normale, col mio apparato. Asciuga. Allora faccio il carbonato, mi si vede, no, che è con questo strumento grande. Ui. Vai, Fra, vediamo un po' la mente, cambia, vai. Così. Ma fa molta differenza io. Guardaci così la notte. Grazie. Allora. Da più 15 a più 25. Ma te lo do, tu dai lontano, ma dite che lo pongono a gazzobra. Break. Ciao Robert. Ah, lui, aspetta quando lo metto qua su. Poi fai parlare a Franco a vedere se faccio sopra. Avanti. Robert. Ciao Claudio, ciao Franco, ciao Luca, mi sembra che ci sia anche Gianni e anche Luca Flipper, ciao a tutti. Una cosa, ma c'è qualcuno stamattina portante allucinato, perché io la sento dal canale 6 in su. Non è portante, vabbè, non è portante, è quel discorso che avevamo ieri. Pappagatto, è una cosa allucinante quanto è forte. È misurazioni. Sono misurazioni queste, capito? È quel discorso che avevamo ieri. Quindi cerchiamo di starsene tranquilli e sereni. Caffa, la Juve comunque sta perdendo 1-0, ti interessa? Ehi, a me già mi interessa poco, l'ho già vista. Così è fuori dalla coppa. Intanto è fuori, perché se perde 1-0 è fuori. Devi fare 3 gol, là. Quindi. Ma due non le fai, basta che vinca 2-1. Sì, basta che vinca 2-1, ma devi vinci 2-1. È troppo molle, sì, la vedo troppo rilassata, speriamo che si svegli. Troppe partite stanno facendo, stanno giocando troppo, cioè ho fatto un partitone domenica, capito? Oggi l'ora più grande, mercoledì devono giocare di nuovo sabato, cioè, vabbè, comunque se perdono Fuggi un baretto, se non pigliamo le matte similiari. Vai Flipper. No, si è forzato, dici Luca, che si doveva forzare. Ciao Roberto, salutoni. Guarda, c'è anche Luigi, non se lo ascolti da Itti, Luigi. Ah, c'è che sta modulando con la ragazza, Luigi, lascialo modulare. E poi c'è avvicina a lui e invece sta in radio. Oh, Claudio. Il Vittorio che stava parlando all'ora di pranzo, ma dov'è? Vicino a me, c'è un bel segnale poi. Oh, Vittorio, Vittorio è nella zona di Canica, lontano da te, lontano da me, è in campagna, lontano. C'è una bella zona, molto alta, molto aperta, arriva molto forte anche qua, c'è il segnale tuo con l'antenna piccola, immaginati tu, è fortissimo qua Vittorio. Fa un bel segnale, una bella radio, eccellente tutto. Era tanto che non lo sentivo, ma qui è uno dei più forti, Ha lo stesso segnale di Tonino di Udice, mi capisco. Molto forte. Sono segnali molto alti qua. Beh, io sono in alto, lui in alto, ci vediamo, praticamente lui è sotto Monte Oro, immaginati tu, siamo, io sono davanti a lui, proprio non abbiamo ostacoli né una né l'altra. Ok, vai Luca tu, vai Luca tu. Ehi, dai, ti mando in ascolto e mi guardo un po' di televisione, già vi ascolto. Ripeti tu, Robert, scappa, poi se non entro vuol dire che... Io ci voglio un mito. Ripeti tu, Robert, dai, ti mando in ascolto. Una mezz'oretta. Ti è rimasto fra, ci siamo io, tu, poi Luca Pippa dice che si è allontanato un attimino, Gianni, così è andato in correttivo, poi chi c'era? Lui dice, ma non stai modulando con la tua ragazza tu? Ah, stai modulando con la tua ragazza? Tu devi modulare con lei, tu e lei e boh, senza il microfono. Non c'è la giro baracchino, ti rompi il baracchino. E dalle affetto, lascia stare il baracchino, che c'è freddo. Vabbè, ma parla con lei, no? Invece di parlare con noi. Vai con me, Luigi, Mattacchione. Cos'è? Cos'è da giovedì? Allucinante, le apparendo i dubbi. Ma, vieni a dire, se ci eliminava la coppa, faceva a posto, e va bene così come ti dice Alghero, e va bene così. Dimmi tu qua Luigi, dai un po' d'affetto, un po' d'affetto, ciao Luigi, ciao Roberto, ciao Tony. Costantino ha dato impressione, cosa mette a Costantino? Cosa mette a Costantino lui? Ah, perché si chiama Luca Costantino. E te già Luca ci ha detto Luigi. Luigi e tre fratelli. Ho capito, Luigi e tre fratelli. Sì, io sono amico, si chiama Luigi e tre fratelli. E lui è Luigi e tre fratelli. Cosa ha detto? Ha detto che Costantino è andato in pensione da tempo, hai subito di chiami Costantino. Ah, l'hai preso tu il posto lui? Boh, io faccio la... Facciamo la voce, boh. Sentito, cazzo, fai bene lui, fai tutto bene, cava. Una bella radio, mi stai, l'ho vista, dillo tu che al mobico. Chi si sì, un apparecchio, mica fa originale, una bomba, Vendo. Luigi, come si chiama, Ma dove sei, in che zona sei tu? Non lo sai dove, di presa niente. Ah, Ittili. Cazzano qua li vedi abbastanza bene, dai. Robè. Che sa? Cosa l'ha fatto la Juve? Stai sotto 3-2, no? Stai sotto 3-2, ma basterebbe vincere 2-1. Abbastanza ne mangiando un gol, Ittili, non hai visto? Claudio, ho telefonato a quelli di Cagliari, te l'ho detto. Vabbè. Allora, hanno voluto la comunicazione dell'integrazione del nuovo apparato, gli ho mandato la comunicazione del Midland. Poi del PAC mi ha detto, ad essere omologato, ha voluto il codice, hanno mandato degli elenchi che hanno loro, però dice non risulta con quel nominativo. Comunque, a mandare una richiesta scritta che controllano meglio, se no, provare a vedere su internet, mi ha dato il sito dove cercare. Già c'è, che ho già guardato io. Quello è un 40 canali di vecchia generazione, c'è. Perché neanche loro avevano il mio, il 294 della Inuit, capito? Dice non ci risulta, ho detto ma guarda che è una radio del 1978, è chiaro che non vi risulta, però è di vecchia omologazione, è un 23 canali, Dice, allora va bene, non ci sono problemi per noi. E allora dice, loro hanno tabelle di lizi recenti, capito? Se vanno a guardare le vecchie tabelle, i vecchi codici, ci sono quelle radio. Quindi sono omologati, tu dici, guarda che questa radio è di vecchia generazione, è del 1981, capito? Ed è un 40 canali base a 220, un 40 canali base, felici. Ed è omologato. Sì, domani tu gli ho detto, ma da quando partono le vostre, i vostri tabulati? Non ne sapeva niente, questo ha detto, ti faccio parlare con la dottoressa Giacu, che poi non c'era la dottoressa Giacu, e poi mi ha risposto un'altra. Vabbè, non faccio affidamento. Infatti ha detto mandami una riserva scritta così vediamo, controlliamo meglio e vediamo un pochettino. Marco cominciò a avere un nome del Pace, ha detto ma Pace, mai sentito nominare, mi ha detto, e tu? Sono degli altri, insomma. Tu devi telefonare e parlare alla dottoressa Giacu, a quel numero che ti ho dato io. E vedi che ti dice tutto. Ma oh, sono stati gentilissimi, niente da dire. E poi ho chiesto anche per il VHCarino, mi ha dato delle spiegazioni. Sarà il cosa c'è da fare. Allora non ti devi pagare niente, però devi fare la licenza di radiotelegrafista, ci sono dei modelli e poi non so cosa cavolo, devi fare una concessione, non so cosa, eccetera, eccetera. Però non si paga niente. Il radiotelegrafista? Te l'hanno tolta la... il telegrafo? Così ecco, ci vuole la licenza, dice vai nelle poste di Abbigliata Sassari e ti danno tutte le indicazioni che devi dare. Sono due modelli che devi compilare. Ah, ho capito. Il patentino quello, sì, solo io quello lì, quello blu, marino. No, la licenza non ha bisogno di nessun esame, perché si utilizzano soltanto in emergenza. Dice non c'è bisogno di fare l'esame e ti rilasciano questo patentino, vi ha detto. Esatto, però lo puoi tenere solo in barca. Capa, infatti mi ha detto quello lì, ha detto è abbastanza semplice, compili questi due moduli, non devi utilizzare solo apparati omologati. E ha detto c'è un ammalato vecchio, con la barca vecchio di 20 anni, 30 anni fa, e non mi ha saputo rispondere. Quello che fa la richiesta in capitaneria se non rilasciano nulla osta, capito? Altrimenti lo devi mettere omologato, cambiarlo e metterlo omologato. Le leggi sono cambiate, purtroppo prima era così, adesso è un casino. Ma se non è omologato, c'è un vecchio apparato, lo puoi tenere lo stesso o no? Cosa si dice? Qua, sul settore navale, nautico, non ti so dire niente. So che ci sono delle nuove leggi, quindi bisogna andare lì in via Brigata Sassari e chiedere, capito? O al limite... chiede la capitaneria, non so. Beh, mi sa che credo c'è degli amici in capitaneria, chiede a loro che siamo più sicuri e tutto, tanto i controlli li fa la capitaneria, non è così? Non tanto i controlli fanno loro. Ma appunto c'è degli amici di lì in capitaneria, chiede a loro che siamo più sicuri. Ho chiesto a questa qua, gli devo passare chi si occupa dei VHF marini, poi l'altra che era il reparto CB, l'altra che era il reparto della domatoria, per ogni settore c'è una persona. Sono in dei gentili, non li comprende nulla. Me ne sono ascolto, però ti posso dire una cosa, la gentilezza era buona, più che buona. E quando hanno il telefono ti rispondono male, io ho chiamato a Sassa, gli sono affortunati che non ne possono più. Lo so. No, lì sono molto gentili, non c'è problema. Non c'è nessun problema. Vabbè, facciamo riprendere a Franco. No, vabbè, continuate che sto seguendo la partita. Mi ascolto, non puoi niente. Io ho un occhio alla partita e l'orecchio alla radio. Ma se la cosa c'è la però io faccio guardare in spagnolo. Ma dove? In computer te lo stai guardando? Ma è ancora aperto quello calciogratis.com? C'è ancora? No, che sappiamo. Io lì ho visto le partite di Serie A, vabbè me le guardo su satellite, mi sposto, l'altro giorno le partite, io me le ho sempre guardate gratis da satellite, mi sposto con satellite, ma non certo. Però ho provato per curiosità su questo calciogratis.com e c'erano le partite su canali cinesi, ma lì ho certo le hanno bloccate, è vero o no? No, non lo so, io so sempre, io giro la mappa e me le guardo. Ma sempre gratis. No, a pagamento. A pagamento, la connessione paga e basta, mica paga. Vabbè, cazzo, guarda che vuoi. guardando, però mi gioco mania di brutto i biscotti, sto guardando e un occhio dentro il pacco di biscotti. Beh, sai bene, io l'ho mangiato, dai. Avanti Luigi. Ancora quanto paghi? E dove si collega sto? Si chiama gratis, stai navigando. A posto. A proposito, ha fatto la verità quel cavolo di quello che avevo chiesto, no? Oh, dai, non mi ricordo. Il computer allora al bar, ti ricordi? Sì, ma non l'ha detto Sandro, ma tu qua è come fare a lui, non si può fare capo, allora diamo la visione domani, via, se mi viene bene. Tieni ancora per provare? Oh, lo posso anche chiudere, non c'è problema. No, prova. Vedrai se va bene, se tiene bene. Qualche giorno, poi magari a fine settimana. Ci vediamo e lo piatto. Tienilo. Tanto devo preparare ancora i pezzoni. Come vuoi tu, non c'è problema. Sì? Ho detto, come vuoi tu, non c'è problema. No, Tino, bene, sotto controllo, controlla tutto. Non c'è problema, poi magari a fine settimana, sabato. Ci vediamo magari a prenderci caffè. E lo porti. È meglio che lo tieni ancora a provare. Ci sono anche quattro Barcellona Chelsea, no, giusto? Ehi, deve vincere il Chelsea, eh? Ah? Che il Chelsea deve vincere? La Juventus è a pagamento. Via. Io devo per fare due gol. Vabbè. Deve vincere 2-1. La Juve, siamo fuori, andata K K del rosmetro. Sì, chi c'è? E lui, risposta a calare. Di nuovo, non ci posso credere. Bravo col portiere. Fuori gioco era. Allora io faccio una fattura, non fatta più vita, pizza gioco. Sì, la Juve ha fatto la segnata. Se parendo di tutto, ha fatto una pizza a neve, io pensavo di entrare in porta sul portiere. Sono squadroni, Ma non è giornata, no, non è giornata. Giornata brutta. No. Mi stanno schiacciando, non per nulla la sua. Tu non c'è l'ascolto, Mario. Ci sta facendo un bassasso. Ma Gianni, le ha rispediti quegli apparati insieme a Salvatore? Cos'è? Se Gianni le ha rispediti gli apparati. Sì. Io comunque non l'avrei spedito, al posto suo me l'avrei tenuto. Se si battesse di là me l'avrei tenuto. E come mai non accendevano neanche, hanno un motore in garage? Sì, un motore in garage e ci sono anche tu da rispedirli, tanto non ti danno niente, secondo me non gli danno niente. Sì. Ma già mai trovato il secondo gomme, fra. Ma va, che fanculo, va. Sono praticamente a tassetta. Sto li sta aspettando e agisce in contropiede. No, ma io non sono Juventus, sono bianconero non si scappa. La partita deve fare la Juve, ma è fondata lì. è inconcludente, un paio di azioni, qualche parata al portiere, ma a livello di gioco non ha fatto vedere niente. La Juventus? No, non mi piace niente, l'andata era molto migliore, stanno adesso subendo pure. Ah, sta seguendo tu adesso? Sì. Ah? Sì. Subendo, Robbe. No, lo giocano in contropiedi, giustamente, niente con attaccare, c'è più tempi. Sì, ma gioco come sta facendo la Juve, fanno dei lunghi, stanno tirando, cioè non c'è utile la Juve. All'andata, al secondo tempo, ha fatto vedere qualcosa. Mi nomi o Gomi? Mi nomi? Gol di Del Piero. Gol. Rete no, hai visto qua che si garregheggia, non è? Ma va per pareti, Claudio, riscalda che io non si ha. Aspetta che faccio un po' di massaggi. Alle yo-yo. Cagini, ma va come sta la grinta, ma c'hanno poco, quanto c'hanno? 15 minuti? No, di più, Hai visto il replay? Perché? Sono le 22:08. Hai visto il replay? Si tirava neve se si scende al tribunale, dico, ma non me l'ha tirato tre giri. Ha segnato Del Piero, tre giri, ha segnato. Ha fatto il passaggio Del Piero, ma ha segnato tre giri. Ma un rigore non se lo muove l'aria, madonna, evidentemente non l'abbiamo pagato stavolta. Che mi seguo questa finale mondiale. Anche il Barcellona 0-0. Vinicius è fuori pure lui. Se lo segna sì. Aio Del Piero che ha finto ricchio. Mondiali quest'anno sono? A giugno, tra tre mesi. Speriamo bene. A finire con il fatto del digitale terrestre, un po' di gente non se la guarda. Hanno rimandato? A quanto l'hanno rimandata? A ottobre 2005. Chi te l'ha detto? Fonti. No, mi sembra che stanno pubblicizzando tutta la natura, che se dice maggio scaricano tutto a Sassari. No, la scaricano, arrivi a Ostia, non ci vedi più nulla. Delle città capoluogo, Sassari, Cagliari, ogni tanto dovrebbero ritardare qualche giorno, però Sassari e Cagliari staccano il 16, ufficialmente almeno hanno detto così. Sassari è già coperta, anche se ci sono zone, dice, è vero che a Sacro Cuore ci sono zone, mi hanno detto degli informatori, zone scoperte. Tutto digitale. Non ce l'hai tu Luca, non te lo sei preso il digitale terrestre? Hai perso la metà la parabolica. Vabbè, parabolica se lo puoi vedere perché se ti criticano il segnale non vedi nulla, lo sai. Vabbè, ecco vero. Se ne prendo un DVD mi guardo solo il film DVD. Perché non hai detto che se c'è il satellite, se prendi la RAI che ti puoi vedere la partita, perché se non c'hai i diritti di ritrasmissione in Europa la RAI e molte volte non se li prende, non vedi nulla, lo sai. Gaffa. Andà bene. Sì, mamma sono sta comprando. Non vedo 90. Gaffa. Beh, quindi si può vedere o no? Cosa vuol dire si può vedere? La partita si può vedere col digitale terrestre o no? Il digitale terrestre lo puoi vedere, però col satellite non è detto che la puoi vedere, perché se la RAI non si prende i diritti, non c'è i diritti di ritrasmissione, non la puoi vedere, è oscura il canale. Ah, non ho capito. No, perché Franco ha detto che l'hanno rimpiazza. No, no, non mi risulta, io sono abbastanza aggiornato. A me lo Sassari non hanno rinviato niente. Sassari e Cagliari no. Quindi Sardegna niente. Sardegna è la prima regione in Italia, ci sono una percentuale altissima di decoder digitale terrestre, voglio dire, in proporzione con la popolazione è il primo posto in Italia, secondo posto era la Val d'Aosta, sono le due regioni prima in Italia, le altre ritardano parecchio, però Sassari e Cagliari sono già coperte, entro il 16 devono staccare. 16 di quando? Marzo, hanno anticipato perché erano per il 3.000, cazzo, di me la sugo. Stacca l'analogico praticamente. Gappa gappa. No, vabbè. Ogni barra ha fatto di subottiere, ne ha tolto un gol fatto. No, lei ha uno, la metà mia che è lì, c'ha Sky. E deve passare il video. Adesso vediamo. A più male, ma se lo può. Vabbè. Vabbè. Via. Ci sei Gianni? Ehi, ciao Roberto. Ma già ne avevo sentito. Stasera ho detto, ma non entrate Roberto, lo devi a fare allenamento. Cappa cappa, apri da freddo. Vabbè, è un divorzivo. Sì, già, sono un divorzivo, però molto impegnativo, perché sto prendendo, sto prendendo, in vero, vabbè, tanto non esci con i bambini, però ci sto poco con la famiglia, no? Volano, vediamo cosa si riconosce un piccolo. Da Pacapalabra già ci sono, già c'è una bella stagione, già ci siamo. Però d'inverno, sabato e domenica, sono quasi sempre impegnato. Beh, già conosciuto la Roberto. Sì. Pagappa. Di graziato. Ci siamo anche baciati. Oh. Vado, senza. Comunque, cioè, l'ho indovinato subito che era Marco e che era Gianni. La voce è uguale. Già non credo. Poi Marco di vista io lo conosco, da qualche parte l'ho visto. Cioè l'ho già intravistato, te proprio mai visto. Tanto meglio a uno che conosco, però fisicamente c'è diverso. Cappaga, era la somiglianza. A me? Dov'è la somiglianza? Dov'è la somiglianza? No, parlo come faccia, per somigliarvi a uno che conosco, però fisicamente c'è più alto. Ma io pensavo di non avere studi, di essere unico, invece mi sei confermato che c'è un studio. Siamo tutti in studio, chi più e chi meno. Se non baci tu. E vabbè, come sono rientrato, buonasera a tutti di nuovo, scusate se ho fatto questa entrata così, là. Era un po' internet, a vedere un po' il forum. Oh yeah. Mi pare sia un Galaxy. Sì. Provo fa la muffa adesso. No, i tupi ci sono dentro. Siete cattivi, siete molto cattivi. State mettendo lì che sulla piaga. No, già, l'altra volta, più o meno un mese fa, no, ora sono venuto con il furgone. Beh. Ah, vabbè. Dimmi tu. Un mese fa che sono venuto in furgone da te. Sì, anche meno, no? Roberto, c'è un tipo là dentro. Vabbè, è dato, ma chi sei Luca? Da molto riconosciuto. E perché a Franco... Franco California, Claudio, vabbè Claudio me lo immaginavo, però di cosa? Di Gianni avevo l'impressione, cioè me lo immaginavo completamente diverso, infatti mi ha detto Claudio, mica per dubbi assaggio. Vabbè ma Claudio non è. Ma non ti credere, non... Franco un bel. Che vuol dire un bel bel? Ehi, la radio in verticale è precisa la voce. Sì, ma Gianni fisicamente me lo immaginavo completamente diverso, come Mario un po' diverso, però poi guardandolo già che me ne sono accorto, però Gianni me lo sarei immaginato completamente diverso io. Come immaginavi, magrolino? No, piccoletto ti immaginavo, molto piccolino, esile, da, come tranquillo, da, un tranquillone, più grande di età sicuramente. Pure io la prima volta Gianni. Salvini, mi sono lavorato un microfono. Io ero un ragazzino, 30 anni, 35 anni. si è fatto la macchina, e lì tu vai. Ma io gli stavo ascoltando a Claudio, siccome Marco mi ha detto, vengo anche io, gli ho indicato dove era, quindi gli ho indicato la strada, e stavo ascoltando a Claudio, secondo che da carbonati veniva con la parte, e lui si è battuto dall'altro. Allora che abbiamo visto una macchina, infatti ho detto, visto, ho mandato Piccino adesso, oppure sta andando la Claudia a prendere a Claudio, poi è venuto Claudio, ci stai già in via. Poi è venuto il discorso nel giro di gara, ci ho detto, forse c'è la roba centella, se invece già sei venuto. No, ma io ero puntuale, mi ero messo per me, ero lì anche prima. Sì, abbiamo visto, c'era Mario, addirittura Mario è arrivato, erano state le 6, le 7 meno 20, e avevo questi tipi fuori, però da lontano non l'ho riconosciuto a Mario. Poi alla fine sono uscito e ho detto, ma non sarà Mario, perché io a Mario l'ho visto un pezzettino dentro la macchina, e sono un poco fisionomista. Ho detto, ma Mario, lui con quel vocione, ha detto, ah, Mario, sei tu. Ha una voce molto grossa. Che lo conosce a Franco da Sauro quel finocchio, poi lui. La compagnia te ne accorgi, no? Lo ti fa la tua posta, mamma mia, ma che dai. Lo fa, diglielo, fa, diglielo. Qua fa come? Ma come fa uno? Nellini. Ma fa qualcosa, una vita. È l'unico praticamente che ha conosciuto da tanti anni prima di iniziare a fare il baracchino. Luca? Sì, uno che abitava vicino a te, Nigro, lo conosci? Sì. Nigro si chiamava. Nigro. Stava vicino, proprio vicino a te in quel caso, un po' più in giù lui, tipo la famiglia. Nigro, non mi è nuovo, Nigro. Quanti anni, 20 anni fa? Poi oh, è grande, è più grande di me. Adesso ci avrà 50 anni questo, poi c'è il fratello uno Ignazio, l'altro Giovanni, c'è un circolo adesso lui. Ignazio. E gli altri fratelli? L'altro come si chiama? Piero, no? Oh, non te lo so dire. Comunque abitavano di lì. Io li conosco da quando erano ragazzini perché hanno lavorato in officina da me, verniciatori tutti e due. Infatti quello che sa che era verniciatore ha la malattia ai polmoni. Chi è Mario? Così è. Non te lo so dire io di questo, ma non mi meraviglierei. In due, cazzo, non me ne accorgete. E mo' dipende da chi ha ripreso, io stavo parlando con Roberto, chi ha ripreso? Mario, tu sei, mi sono veloce. Ah, perché stavo rispondendo a Roberto. State buono. No, stavo rispondendo a Roberto di questo Nigro, però non... Ripeto, non mi è nuovo. Mi ricordo, però... Tu Mario lo conosci? E ci ho detto anche che c'è la malattia ai polmoni, che è andato a fare il militare e dopodiché mi sembra che già non si può pensare al militare, perché anche lì poi si è messo a fare il carrozziere, il coso, e mi sa che c'è la pensione dal coso militare. Ce l'ho assegnato. Io sono Barcellona, Ronaldinho, l'ha segnato. Ronaldinho. Aspetta, gli dirò, vedi? Il Chelsea fuori, roba la mattica, prima in campionato di Asmala e anche la Juve esce, non ce la fa segnare, troppo stanno giocando troppo di luccio, quelli stanno chiudendo forte. Ma questa cosa signor non pensa proprio così la luccina ogni gol proprio come è stato? È forte, raga. Che prendi Gianni? Raga, se rimango all'ascolto, sono un po' addolorato. Vai, noi ci chiamiamo addolorato. Doloretta. Ora non voglio raccontare un po'. ma ci scherzo sopra, è inutile lasciare la curva, intanto non cambia niente. Ormai è successo, fregatene. Meno male ne hai buttato solo 200, fai dopo una rampa di 500. Ehi, ma è brutto che non è solo quello, è brutto che l'ha scoperta anche mia moglie, si è incazzata nera. E chi la gira va a domandare un rivolto, è burro, lasciatele, le amici purtroppo è capitato, non è fatto mica la porta a tutta, che è successo, un truffaldino, e che cazzo vuoi dici per fare? Figlio di buona mamma, è quello lì. Avevo già fatto tutti i disegni per fare il mobiletto, tutto quanto. Misure, contromisure. Puro. E allora? A prima lavoro guadagnava. No, non li avevo ancora dati per fortuna. Per caricare, vedi, tutti i timbri, ambo sulla voce, spessi due volte. E se che lo tocco con mano, non mi penso che mi è passata tutta la passione di quell'apparecchio. Io la mano sto offendendo. No, avevo chiesto un di volte, ma è passato di no. No, ma mi è passata tutta la voglia adesso, la voglia di prenderlo. Perché avresti questo ricorda. Praticamente da base già, come può essere quello di Roberto, però più così, no? Beh, è tutta un'altra cosa, è più grande, c'ha più strumenti, tutto. C'ha l'eco, c'ha rosmetro, vasmetro, cosa ti posso dire, c'è tante cose. E batte regolabili c'ha pure. Sì. Io avevo provato uno, ma tanti anni fa, era di Trucchetti, sono la Lucia Baracchino, Gian Mario. L'ho andato a provare, siccome lo stavo vendendo, ma c'era tutto questo qua, bip, nome di manopole, però non mi ricordo che capo di Baracchino era, c'è una camera ecco pure. Come era nera? Cappa. E allora c'è stato quello, quello lì è il pezzo. Cioè il pezzo che lo fa più o meno uguale, però c'è stato sentire. Poi c'è ecco l'Alan che lo fa 585. Mi sembra che c'era tre strumenti, un po' di tastini, un po' di... guarda, c'era tutto. E infatti mi sembra che erano regolabili, mi sembra. E questo sono regolabili da una vita. Vabbè, questo mi ricordo che... poi c'era il valescasse... davanti alla cassa, una cassa, non due, una. Non mi ricordo che cavolo è barattino, mi sembra grande. Ha detto una bugia, non me lo ricordo, comunque era grande un apparecchio. Ma già, e lì mi ha fatto la domanda a vedere che colore lo prendeva l'apparecchio Trucchetti. Cacchio, cosa dici tu? Nido. Per forza di cose non prendere nero. Non penso che lo prendesse argento, no? Sicuramente è intonato al mestiere. Ma mica era Trucchetti quello... ha messo lui, voglio un attivo, Trucchetti. Non era Guido delle bombe funebri, no? No, negativo. Te l'ho detto anche, se aveva messo un numero attivo lì. Ce n'era prima roba di gente, no? un bel. No, negativo. Tu già. No, non lo dico, tutta tutta tutto non mi dice niente, non me lo ricordo. Ma hai sentito la vostra camionista per il Zoma? Sì, è quello che c'è per il Zoma che ci ha detto attaccato al parabrezza. Ah, mi sembra che l'hai detto. Cavaga, sta per il Zoma. Ehi Luca, vabbè, c'è un camionista che mi sembra servito a cercare la il periodo, ma la mantosta la presa in fila, no, tutto bello modellato. E c'è la scritta CB per il Zoma. Mi sa che l'ho visto, ci credi? Ci credo sì, perché è sempre in giro, se tu vai al giorno industriale lo vedi più volte, perché l'ho visto più volte lì. Tanto qua, vicino a casa si fanno questo trattore bianco. Senza rimorchio. No, voi, volte nel baracchino, cavolo. Sì, ce l'hanno tutti. Ce l'hanno tutti i grandi antennari. I camionisti è difficile che non ne abbiano. Ne ho visto andando al muro su un camion, ma camion, un rimorso un baracchino, uno o due da giù visto già, non è c'è lo su, non mi piace tutto il baracchino. Mancava il percento con gli artisti c'è il baracchino. E qua lo c'è tanto, va? Contagiato. Eh? Contagiato, zio. No, ma sono Leo. Cappa. Ma ci guarda un po', perché la partita non la fai più. E continuiamo a guardare i carabinieri. Vai, vai, 2-1 la Juve, è troppo forte, non ce n'è per nessuno. Un errore difensivo. Non ce n'è per nessuno. Stavamo perdendo. Segnato. Ogni errore ha fatto il portiere. Emerson. Vai Franco, non mi culo a terra. Pippiamo. Già non fa la ricetta di Falcone però. Eh? Da Gianni se vuoi dire. A Mario, tu Juventino sì. Ma anti Juventino. Sì. Cappa. E lo direndi. Prendi, meno perché Vincenti, 2-1. È forte, non ce l'hai, ma fammi 100 lire di pesata, Mario. Ma che te lo devo? Dai, 50. Mario, come mai eri interista, non vi credi? Ma cattivo. Sì, allora, milanista non credo. Don Regino. Diglielo Mario, Don Regino, l'hai visto ieri, terra sarda. Mario, chi ti fai, a parte di scherzi? Diciamo Rossonero. Pure guarda, ci ha messo un messo che tu eri il gol su interista, non mi credi? Quello è domenica, ha perso Claudio la torre, c'è 2-1. Ma Luca, l'hai vista la partita? Io me la guardo lunedì su Antenna 1. Vabbè. Cioè, hanno perso proprio Lucipo, guarda che hanno giocato molto bene. Hanno fatto il gol con la mano, Vigli, con la mano. Questa verità non l'ho vista. Ogni lunedì erano su Antenna 1, a che ora? A sera. E a sera che ora? Alle 3, alle 4, alle 5, alle 6, a ora? Allora vanno anche all'ora di cena in replica, alle 8. Cappa. Tutte le partite alla torre ce l'hanno, tutte, sempre lunedì, all'Antenna 1. Vabbè, comunque siamo quarti, mi sa, però. Cappa. Te le immagini che sei Juventus, oh Robè, c'ha una grinta, gli accidemo la regia nei domani. Boh, adesso è stata fortunata perché il portatore a portiere ha fatto delle parate allucinanti e si è cagato sotto. Speriamo che adesso sia attenta e non prenda il gol in contropiede. Allucinante, cioè c'ha questi scatti di ira, allucinante. Un'altra squadra sarebbe seduto demoralizzata, cioè in casa. Perdendo 1-0, minchia. C'è una mentalità vincente, l'allenatore è numero uno, non ce n'è per nessuno. Guarda, Cappello è una persona, non c'è per nessuno. Ha detto due grida di Alatto, ha dato due grida di Mario, già ci difendi. Allora togliamo la grinta che avete, maledetti bastardi, li avrà detto. Brutti bastardi, gli ha detto, muovetevi che siete pagati. Fanno il mio culo che anima. Vai, è forte. L'Inter non sa reagire, l'Inter non sa reagire, si demoralizza troppo. L'accetto. Cos'è Lu? È forte, l'accetto. È forte la Juve, lo sta dimostrando in campionato e fuori al campionato che è forte, perché in casa così prendere un gol e riuscire a rimontare fino alla fine, secondo tempo l'animosci, questi ultimi minuti di gioco, ma è stato il secondo tempo l'animosci. Che vuol dire, il primo tempo si sono riposati, poi sono andati a fare al secondo tempo. Perché hanno grinta, non si abbattono, come ha detto Roberto, hanno la mentalità vincente, cioè devono vincere a tutti i costi. Domenica con la Sampdoria, no, sabato con la Sampdoria, hanno rischiato grosso, però la mentalità è quella, noi dobbiamo vincere, dobbiamo giocare per vincere. E siamo riusciti a pizzicare 3 punti anche a Genova, e non era facile il campo della Sampdoria. Buon per voi. Speriamo che non ci sia la finale Torra Milan Juventus di Coppa. Mamma mia, mia sfiga che ci abbiamo tutti su Milan. Mi piace Juve Milan, Claudio. A Torino, e con chi si aggarrega Givani, non credo che possa ne dorare 3 gol. No, non so, se il Milan gioca è la più forte di tutti, se gioca però. È difficile. Mi dà solo me, no. Del Piero fuori gioco a pizzicato. Secondi, io. Dai. Oh, yeah. Ma tu Juventino sei roba? No, no, io sono anti-Juventino, però quando la squadra è forte e organizzata, lo dico, la Juve a livello di organizzazione è il numero uno, non ce n'è per nessuno. Simpatizzo per il Milan perché mi piace come gioco, perché c'ha dei buoni giocatori, ma niente di più, se vince non è offerta, non me ne frutti nulla, però nelle coppe io tifo le squadre italiane. Ma tanto non tifo nessuna squadra, dai. Pure se non è dal calcio, ma strano. No, no, a me piace il bel gioco, può essere della Juve, della Roma, dell'Inter, che piace. Quando c'è un bel gioco, una bella partita, finita. È finita. Vedi, l'ha detto anche Cronista, incredibile Juventus. Ha una grinta da insegnare al calcio italiano, non per me, cioè, non si danno mai i becci, giocano fino all'ultimo minuto. Fuori anche il Chelsea, è finito anche adesso. È 1-1, doveva segnare il Chelsea, infatti, va bene così. Va bene, Franco? Dai, è andata anche questa volta, va. Tanto di cappello. Boca! Oh. Come avete fatto a guardare la partita? A televisione, l'ho fatto guardare. Ho capito, ma dove c'è il televisore? Vicino dove c'è il computer, ti ha messo un televisorino. Non l'hai visto l'altra volta il televisore? Ah, no, l'ho messo solo quando ci sono le partite o roba che mi interessa, capito? E il cavo prendo quello della camera di mia figlia. No, pensavo che avessi trasmettito nel video. No, noi abbiamo una centralizzata Sky, non è la parabola, è vista a fianco all'antenna del baracchino, grande. Ma eravate tutti perché Sky nel palazzo? Sì, abbiamo fatto l'impianto centralizzato 3 anni fa, mi pare, ce l'ha fatto Paolotto. Siete tutti abbonati, tutto il palazzo? Tutto il palazzo abbonato, tutti quanti, siamo 9 piani, 18 persone. Perché sono due appartamenti a piano, ci sono. E allora quanto di voi? No, lo stesso pensavo almeno 3 o 4 appartamenti a piano. No. Siamo in pochi, non ti credi, siamo qua nel mio palazzo, siamo in 18 noi, no? Perché siamo 40. Molto spazio, molto poca gente, capito? 18, tutto 18, abbiamo fatto l'anno scorso, c'è la centralina, no? Tutto centralizzato, capito? C'è la centralina su, il massaggio, tutto l'impianto, tutto quanto. Io praticamente attacco la spina e il coso, tutto a posto. Ma se avete qualche ammolamento particolare tutti insieme o ognuno si fa l'ammolamento suo? No, è mensile, il condominio, lo paghiamo assieme al condominio. Ah, così, non lo sapevo, non è una novità. Quindi tu c'hai un ammolamento centralizzato, diciamo, condominiale, chiaramente. Ma risparmiate, quanto ti viene a te al mese? Io pago 12 euro. 12 euro, che assurdo. Cosa c'hai? Che pacchetto ti hai preso? È un pacchetto tutto intero, cioè puoi vedere tutto su Sky, tutto quello che è da Sky, partite, film, tutto. È una cosa allucinante, non lo sapevo, io pago 40 euro al mese a Sky, ma così se avete qualche contratto, se avete qualche cosa, se non metto qualche ripetitore sopra, telefonico, qualcosa del genere. E Marina, come c'è tu, c'è il, come si chiama, io non me ne intendo, poi c'è la parabola che è centralizzata, hanno fatto tutti gli inglesi in tutti gli appartamenti. Sì, ma non riesco a capire come fai a pagare 12 euro al mese tu, cioè io ne pago 40. Ma sei singolo, noi che antigemmo, siamo in 18 tutti il palazzo. Era un'offerta che ci aveva fatto praticamente praticamente tramite Polotto, Sky, adesso non mi ricordo esattamente, c'ho il contratto comunque da poverello, ci aveva fatto una coppia all'amministratore, capito? Praticamente è un contratto condominiale, capito? Anche l'altra scala ce l'ha, l'altra scala a fianco dove c'è mia socia, l'altra 18, quindi conta 36 persone tutte in un condominio. Poi ce l'ha l'altra scala di giù, quindi io sono la G, la F ce l'abbiamo. Infatti ci sono una parabola nella mia, l'ha attaccata alla mia antenna, l'ho fatta mettere io lì perché era il punto migliore, e dall'altra parte invece è più nascosta. Poi c'è l'altra scala, praticamente quella di più, mi pare sia la D, A, B, C, D, C, c'è la D, A, B, la C e la D, che sono, quelle sono più basse però, e sono 10 persone, quindi sono 36 più 10, 46 persone, tutte in un condominio, è un pacchetto che ci hanno dato, capito? Ma cosa c'hai tu di canali? Cioè c'hai tutti i canali sportivi o solo anticipi e posticipi? Anticipi, posticipi, film, tutto quello che è da Sky, io lo vedo, tutto. Ma c'è anche per dire Disney Channel, Discovery, tutti quei canali ce li hai tutti? Tutti, ma il telecomando è lungo canto la radio. Basta, una bella offerta la che ha preso. Tieni presente, io pago 40 euro e c'ho 2 euro di conto perché c'ho il rischio, però avrei dovuto pagare 42 euro. Qua, mi correggo perché mia moglie ha messo 16 euro al meglio, siccome lo pagare in condominio, 16 euro. È un regalo, tu stai pagando meno della metà di quanto pago, io pago 40 euro e ne avrei dovuto pagare 42, cioè il ridere ne pago 2 euro di meno, figurati, ogni regalo, così si ti conviene. Lo so, però questa è la, non mi ricordo, se è 3 anni fa, allora Pino è andato via quanti anni fa, perché c'era ancora Pino qua a fianco a me, no, forse di più di 2 anni, almeno 3 anni, 3-4 anni. La parabola quando l'hanno messa? La parabola di Sky quando l'hanno messa? Da Pino, quanti anni che c'è andato qui? La parabola quanti anni? È andato. E la parabola quando l'hanno messa? Prima. Molto prima, quando? Un paio d'anni fa. Ah, quindi non è tanto, no? Perché più di 2 anni fa c'era ancora Telepiù e Stream. È un paio d'anni fa, perché questo che è andato via a fianco a me è andato via, stavo dicendo 15 mesi fa, io pensavo di più, 15 mesi fa, quindi 2 anni fa, cioè, perché lei segue queste cose. No, io ho degli amici che hanno dei condomini che hanno messo i ponti telefonici, i ripetitori telefonici, e si sono messi d'accordo e hanno detto tu mi dai 10.000 euro il condominio all'anno e in più ci dai l'ammonamento gratuito a tutti i condomini, e qualcuno gliel'hanno dato. Allora, la proposta che hanno fatto a noi qui dove abito io, nella torre, perché questa è chiamata la torre, non dal mio nominativo che mi hanno dato, ma è chiamata così, in questo condominio è chiamata la torre di via Lampa, perché era più alta, ci avevano fatto una proposta alla team di mettere un ripetitore, e io non ho accettato, io personalmente, e quindi il condominio non ha avuto questo corso, capito? Non ho avuto questa opportunità, ho fatto la riunione, tutti erano d'accordo, detto, il testo è il mio, io ho le antenne del baracchino, a me il segnale della team mi disturba, anzi io sono l'allenatore, ho la radio, il ripetitore mi disturba, mi pare ci avevano offerto 15.000 euro all'anno, capito? 15.000 euro sono tanti, è il nostro fenomeno che è grande, ci abbiamo un sacco di spese. Rinunciamo perché tu, noi rinunciamo perché io, antenne sopra, non si mette niente. Arrivederci, me ne sono andato. E non hanno più parlato di niente. Ma che problemi di disturbi ti possono dare? Se lavorano su frequenze particolari e hanno degli apparati ultra professionali. Ma stai scherzando, io lavoro nella stessa frequenza. Quando lo volevano mettere c'era ancora il coso, come si chiama, il quello che trasmetteva a 430, come si chiamava quel tipo lì, GSM? L'ETAX. Allora? Ma ormai sono in disuso, non ci sono più, altro lavorano sui 900 e 1800. Non c'entra niente, ma possono sempre disturbare, io ho consultato proprio dai tecnici e disturbano, capito? Disturba. Eppure io non mi voglio che domani andare a gabbettuli a chi ci rivedi. No, non c'è posto, devo togliere le mie antenne per far mettere le sue. Attenandi, il tetto è il mio, comando io, tutti a casa, fuori dal bar. Vabbè, quello c'ha ragione, ma se la fa a me una proposta del genere, a Videzzi devo posto. La gente è convinta che ti creino problemi alla salute, assolutamente non è vero. No, non per quello, io non è che ho paura di quello. È che, lo so, mi disturba, capito? Mi disturba, questo è l'ultimo piano. C'è il quando manca la luce si inseriva, c'era in progetto l'inserimento di un gruppo elettrogeno, dovevano passare carri qua sotto casa, ma attenante, no. Sono stato magari più basso ai primi piani, non me ne ha fatto niente. Ma dice che fa un rumore allucinante, ce l'hanno lì in via Washington, lì uscendo in via Italia, col palazzo alto che c'è. C'è un mio amico che abita lì, ma è Claudio mio, non si può dormire a notte. Fischia il vento, si intende i rumori, questo rumore di alternata, di radiofrequenza la notte, soprattutto quando sono temporali e cose, dice allucinate, delle scariche, anche il televisore, dice non si vede più bene come prima, no. Eppure io ho le antenne VHF, UHF, sono tutti di poli, immaginato. Poi gli avevo detto, se montate un traliccio, mettalo, usate voi, mettalo, uso io, metto le direttive. No, ma non si può fare perché le nostre antenne possono risuonare, così, il campo magnetico, sì, fa una cosa, non ti affannuta, io avviati. No, vabbè, però il discorso tuo, tu ce l'avevi sotto la testa, così, perché quei gruppi di continuità si inseriscono in continuazione, basta che ci sia uno smasso di corrente o una cessazione di corrente e sono rumorosi, non ho niente da dire, perché c'è anche il gruppo, l'alimentazione sono a gasolio, vale, già fatto. E infatti non ho spiegato tutto, per quello io non sono stato d'accordo, capito, tu perché ce l'ho sulla testa. E poi le mie emissioni radio, io quando devo usare amplificatori che esco con, per dire, con 700-800 watt, con un kilowatt, cioè non è che devo stare attento e devo disturbare il ripetitore, ma non me ne ha sostenuta, io lo vedo e non me ne ha sostenuta, capito? E quindi mi hanno fatto la riunione condominiale, mi hanno chiesto il perché, così, con l'altro, no. Non sono d'accordo perché io ho delle apparecchiature e non mi va né di disturbare né di essere disturbato, perché non mi va. E quindi l'amministratore ha deciso di non far piazzare niente, deciso. Abbiamo deciso tutti assieme, ma io ero contrario da subito, tutto lì. Ok, avanti Gianni. Mica Gianni, il palazzo di Gianni ci sta bene. Così rammazzano i giudici, buono ripetito. Doppio! Room! Ma il tocco 84 non c'è più. Flipper, tutti pari viso. Mario, Franco. Sono tutti andati a dormire. Sono qua. Ehi, che Mario c'è, non si manda l'uscino. Lascia perdere a Gianni e a Luca, stanno prendendo tutte e due le stesse medicine. Uno si addormenta al Monte Basso, uno si addormenta al Monte Alto. Sono ferma. Prendono tutte e due il Viagra, però le fa azione al contrario, capito? Invece di essere arretti, si addormentano. Mario. E vabbè. Come ti va a dormire se ti vedi un caffè prima di andare a letto? Ma io... è da quando sono piccolo che la notte io ceno, piglio il caffè e dormo più del materasso. Se io dovessi prendere il caffè, a parte io caffè solo da piccolino l'ho preso qualche volta, da grande mai, mi piace il gusto, l'odore eccetera eccetera, però non ne prendo, sennò guai, non riesci a dormire tutta la lì, basta appena hai Coca-Cola la notte e non drombo, figurati quanto c'ho l'organismo abituato. Però cosa vuoi che ti dica io? Vabbè, non so cosa dirti. Però se io non prendo il caffè sto male. Ma ti sei abituato così? Caffè? No, ma da piccolino, io ogni volta che mangio il caffè è una cosa, dopo che ho bevuto il caffè non voglio più nulla, ci può essere oro, non voglio più niente perché mi piace tenermi la bocca e il gusto del caffè. Ma io mi vado a prendermi un mirto. Vai a prenderti un mirto, vai. Ciao, vai. solito. Ciao Fra, buonasera e ben ritratto. Io devo lavorare con le moduli, quindi mi serve energia. L'energia già c'è, un buon caffè più lo mangio giù e più ti tirai su. Dunque le vagole sono sempre belle, così è Fra. Le vagole sono valvole. Come Fra? Le valvole sono valvole. Capito. Che non me ne sono capitato, una volta me l'ha capitato l'amplificatore allo hi-fi valvolare, era al coso, al portobello, e non l'ho preso, cazzo, se me ne sono pentita veramente, era a 3 lire, cazzo. E che c'erano le valvole mezzo esaurite, un Luxman, non so se lo conosci, era spettacolare a vedersi, sono ritornato a comprarlo e ce l'avevano già venduto. Vedi, male, quella vedi è stata, quella era una cosa alta della valvola. Era una cosa spettacolare, poi la valvola c'era un suono blu, non ce n'è per nessuno, proprio bello. Io me ne sono pentito, mi manca solo quello degli impianti che ho avuto, un impianto a valvole, ce l'ho un amplificatore valvolare, però è un amplificatore per esterno, diciamo, per voce esterna, non per abitazione. Ecco, è l'unica cosa che non ho mai avuto. No, io ce l'ho uno. Lo sai? Cosa? Hai un valvolare hi-fi tu? No, io c'ho un valvolare professionale. Tu stai parlando da concerto, una spia, cos'è? O di un amplificatore d'ascolto a casa, in abitazione? No, da concerto. Ma quelli già si trovano, no? Io parlo quelli per audiofili, quelli amplificatori allo stato dell'arte, diciamo. E dove c'è un Dutrack a vedere il trufi? A meno che non ti vai un giro in Giappone. Ma sai uno? C'è un Dutrack. Ma non è americano, c'è un track. Ma io l'ho fatto arrivare dal Giappone. Vabbè, sono affari che, diciamo, quelli che usano il basso, quelli strumenti lì lo utilizzano. E io li uso per il mio impianto di discoteca. Tu pensi soltanto a quello mi pilota i miei sub online. Cioè, ma perché non la fai delle manifestazioni? Roger, simile, no? Quasi. Cioè, ma c'è anche altri tipi di amplificatori o cosa? Sì, ma tutta roba tedesca. No, anche io c'ho qualcosa di quello, solo che in casa lo puoi tenere, mi sono tenuto il finale, quello grosso, il Revas, che a parte ritira la faccia, quello che ho io, se lo vedi è una cosa enorme, un amplificatore di un certo livello, adesso te li vedi che pesano 10 kg, cioè 10 kg, quello che ho io pesa 25 kg, con 3 kg ti danno un amplificatore da 500 watt per canale. Roger, sono roba bella, cioè sono frutti. È bello, perché sono asciutti, poi con l'andare del tempo si rovina. No, questo è transito, e vedete, se lo vedi questo affare si mette le mani in testa, c'ha uno stadio di amplificazione allucinante, si è completamente separato, sono due stadi, doppio mono è l'amplificatore, è una cosa allucinante, è un finale, e più c'ho un amplificatore quadrifonico della Marantz, quello è una cosa allo stesso. Difficilissimo da trovare, pochi ce ne hanno fatto di quelli. Roger, quel che si assomiglia a un cubo. Non ce l'hai mai visto, ne aveva uno il blu strano, però ce l'aveva stereofonico, io ce l'ho quadrifonico. Rimane attentato tutto il pannello in alluminio e c'ha quattro strumenti azzurri. Ha una linea spettacolare, diciamo, per chi piace il genere è bellissimo. Roger, no, forse già l'ho visto quel modello, non so sicuro se lo stesso, però già cosa bella quella, piacciono anche a me queste cose. Ma c'è tutto il circuito di amplificazione e preamplificazione separati, l'uscita per l'oscilloscopio, addirittura ci puoi mettere un decoder, stiamo parlando di apparecchi anni 70, un altro tipo di decoder per la soppressione dei rumori, ti sto dicendo, all'epoca era il top di gamma della Marantz. Io ero molto amico di Paolotto, lui ci portava, noi ci facevamo, c'avevamo la specie di discoteca, lui portava tutte le ultime novità, le portava da noi. Poi quello glielo sono preso insieme alle altre cose, c'avevano addirittura, peccato che sono rovinate, non so se le conosci, le casse elettrostatiche. Sì. A me non ci vuole che mi piacciono, le tripla. Intanto già costano in mondo. quelle casse che ci avevo io, ti posso dire tanto Gustavo, le palotto ce l'ha date a 3 lire, perché le abbiamo rovinate, i pannelli si sono rovinati subito, erano delle casse americane, costava 1.400.000 lire l'una, stiamo parlando nel 1982-83. Roger, va bene, un attimo di bianco, riprendi macchina. Questo Franco lo dobbiamo cambiare nome, lo dobbiamo chiamare Archimede, sta sempre scogettando. Allora, a me mi fa piacere quando io parlo delle persone che ti rispondono, quando fai le molte volte parli di cose, io sono un grande appassionato di alta fedeltà, però molte volte non sai con chi parlare, o se parli con qualcuno è come se stai parlando arabo. Lui mi ha risposto, per cui capisco che è una persona competente. Come in tutte le cose, no? È quello che dico sempre io, che uno deve stare attento a ciò che si parla in modo da tenere tutto sotto controllo, perché altrimenti pigli fischi per fiaschi e tutto va a rotoli e non si capisce uno con l'altro. Tutto qui. Beh, certo. Quando uno ha una determinata passione, allora ne parla, e se c'è gente che lo risponde fa anche piacere, perché dice non sono solo, c'è anche Tizio, Caio, Sempronio che ne parlano, però ne capiscono. Non dico che uno debba essere esperto, però trovi tante persone che ne capiscono, trovi quelli invece che non ne capiscono una massa. Capanalo, io sono di quelle persone che mi piace ascoltare tantissimo e aggiornarmi e conoscere tante cose, parliamo cose scientifiche eccetera eccetera, mentre ci sono degli altri argomenti, magari tu a me mi brudi tutto, però non sono mai stato capace, anche provando di suonare per uno strumento, mi sarebbe piaciuto, però quello è vero assoluto per me. Allora mi piace ascoltare la buona musica. Quello sì, naturalmente, infatti sono un orecchio abituato, qualcuno dice che sono troppo esagerato, però io tu mi puoi far sentire la musica che ti piace, però se non è di qualità registrata bene non mi piace, non ne ascolto neanche. Gappa. I CD quando li compri ora, oggi sono tutti sentiti, è vero, e si sentono ben bene. Infatti sono passati subito dalle cassette ai CD perché sono più di alta fedeltà, là. Vabbè, dipende dall'alta fedeltà, perché io ti dimostro che ti sento la differenza tra un CD masterizzato e un CD registrato, me li accorgo subito. Come la differenza tra certi tipi di registrazioni di qualità, sempre non masterizzati, ad altre registrazioni più scadenti. Quando inizi ad avere l'orecchio abituato ti controlli tanti particolari che magari un orecchio normale non ci fa caso. Come per dire Claudio, sulle radio può dare delle informazioni che per me magari non esiste la differenza. Come stavo dicendo poc'anzi, ognuno è entrato nel suo hobby, perché prima la musica era un hobby e giustamente è di molto affidabile su alcuni giudizi che magari io non ne capisco nulla, capito? Oppure per dire Claudio non ne capisce nulla, però con Claudio vai a parlare di radio, ti fa un gabacacco. E così per tante altre cose, capito? Come Franco per esempio fa il tecnico e niente, e sa quello che dice, e anche lui per dire è appassionato di musica. Gaffa, infatti io sono tutto detto, ripeto, sono una persona che piace sentire, ascoltare, soprattutto quando sono persone che sanno quello che dicono. Ci sono un sacco di fanfarroni, però quando sono persone che sanno quello che dicono sono il primo ad ascoltare e a chiedere, mi piace chiedere a me. Tu ti dai la mano dottore di Ittiri, è vero, perché anche lui per la musica ci ha dato la mano. faceva anche il DG. Allora, no, quello l'ho fatto anche io a livello di divertimento, c'ho tutta l'attrezzatura, mixer, piatti, eccetera, eccetera, dischi. Però non è la stessa cosa ascoltare, diciamo. Quando ti metti a ascoltare ti metti in certe posizioni, utilizzi certe cose, eccetera, eccetera. È KK. E che te l'ho lì. Scusa Antonio, mi sono morto, ho toccato il microfono. Microfono? Così è Mario, chiaro Mario, così è. Luca, coricato ti sei, addormentato ti sei, ma mangiando le stesse pastiglie stai prendendo. Che cazzo sei caduta a mosciati? Allora, non è più genere, sto prendendo te duro Viagra. Invece di essere belli, svegli, si ammosciano per due. È che Luca non sta lavorando. Guarda se fosse stato lavorando. Allora, abbiamo grullato subito. Ma ci si ne bisa di sì, ci ne bisa. Si alza alle 5 la mattina, sembra che debba andare a mungere, che alle 8 già in radio. Caso di stare in radio, è ovvio che è pure arrivato alle 10 e mezza, sia ormai. Stanca mi stare tutto il giorno a casa, così. Io stamattina sono uscito, sono andato a trovare a Franco, ho fatto le commissioni, sono andato alle poste, un sacco di cose, poi praticamente in radio non c'ero per niente, capito? Sono passato da Roberto, a proposito, domani mattina faccio Roberto e porto il microfono, più morbido di così non si può fare, capito? Il PTT è abbastanza morbido, non c'è bisogno di incastrarlo fino a tenerlo, basta toccarlo appena la costanza entra in funzione. Non c'è bisogno di schiacciarlo a fondo, basta toccarlo appena. Sì, basta che lo premi un pochino così, e se no lavori con quello nero, capito? Che è più comodo, schiacci. Però dentro c'è una molla, un sistema molto molto delicato. Non si può modificare, capito? Non si può modificare. Gappa di gappa. Comunque già va bene. No, ma è finita la modulazione, andava bene. Oh Claudio, ho cambiato discorso, ma cosa ti offendi in via Gramsci? In via Gramsci? Ma perché è molto lento? Sì, sto parlando di quel tubo enorme che stanno mettendo, cosa cavolo devono passare? È una saracinesca quella, Stanno facendo la deviazione lì, capito? Cazzo, stanno scavando tutto via Gramsci di nuovo, ma da quanto sono quei tubi saranno almeno da 500, tanto so. Quale? No, il tubo da... sì, da 500. Ecco, ma è una cosa impressionante, infatti la pressione dell'acqua qua, almeno dove sono io, è diminuita tantissimo. Non so cosa dove sia nei vendi, ma non lo potevano fare da prima. Un tubo di quelle dimensioni ti pare che dopo che hai fatto tutti i lavori di sistemazione del manto stradale, adesso ne butti tutto a terra. Non sai che il comune è così. Intanto riascoltano tutto, devono riascoltare anche il pezzo dove c'è, dove ci sei tu, devono riascoltare tutto lì. Così avevano detto, cosa stavo dicendo? Lì è stato riaperto perché c'è stato un errore, capito? Praticamente quando hanno fatto i lavori hanno messo una saracinesca più piccola e si sono accorti che praticamente la pressione dell'acqua era calata moltissimo lì. Allora hanno riaperto e stanno ricambiando la saracinesca, stanno mettendo quella grossa. L'aggancio devono cambiare, se è più grosso stanno facendo una sella, lo stanno sellando e cambiano praticamente solo il pezzo, e se no devono aprire tutta la clara e cambiare tutta la condotta di nuovo. Invece lo sellano, le fanno un come si dice, noi lo chiamiamo un branco, no? Dove praticamente si attacca il tubo piccolo, si salda il tipo un imbuto, capito? E poi si allarga, no? Ma è possibile con tutta l'intelligenza della persona che fanno questi lavori dopo che hai tutto sistemato? Secondo me è assurda una cosa del genere. C'è qualcuno che vuole entrare? Chi è avanti? Ehi, chi è? E chi è? Ah? Non ti sento. chi sei? Ah? Tu chi sei? Tu chi sei? Tu chi sei? Tu. Ah? Tu. Ascolta Luca, ma ti sei scindato o ti posso dormire? Pubblicità di idee, bisogna accusendemi. Sto andando in televisione. Allora perché non avete volume? Volume? E che volume? Hai detto tu, tu chi sei? Ma hai detto chi sei? Chi sei tu? Hai detto tu chi sei? Se non altro volume. Hai detto ma com'è tu non ti fa reazione come Gianni? Il Viagra che prende Gianni lo fa addormentare. Kappa. No, mi sto ascoltando. Quando la TV, la TV. E poi Mario stamattina stava lavorando. Oh, che ore va lavorato? Ah, hai inteso, eh? Allora già mi hai sentito quando ti ho detto, infatti ti ho detto per quello. Io ti ho sentito stamattina alle 8 che eri in radio, 8 e mezza, che ora era, blu. Hai detto a Mario, si alza presto Luca. Se non devi andare a lavorare, sta alla radio, quindi si alza presto. Oh, infatti non sono entrato. Non c'eri? No. Poi ci prendevo la rimane, stamattina no. Sono stato a casa alle 9. Ah, è vero, no, stamattina no, Luca. Ah, ieri sì. Stamattina non c'è. Ehi, ho sbagliato. Caro mio, è così, caro mio, è così. Per carità di Dio, Mi sa che Venere mi rientra a travagliare. Si ti bagano, ci sono i diritti finti, se no però manca la visita, bene va mai. Casa di macchine, là, è dato una regolata per quella schiena, vedere cos'è e cosa non è. E poi a lavorare c'è sempre tempo. E cos'è cosa non è? Adesso devo rifare la risonanza magnetica, Mario, perché praticamente non si vede bene. Da quello che ho fatto si vede solo questa discopatia alla colonna vertebrale, praticamente l'ultimo anello della colonna vertebrale è consumato, quindi facendo sforzi, freddo, eccetera, si infiamma e mi provoca questo dolore allucinante, capito? Quindi adesso devo vedere, devo fare un'altra risonanza magnetica, devo andare a Nuoro, appena sto bene, fare un'altra risonanza magnetica e poi vedere un po' cosa c'è. Se c'è l'ernia lombare è sotto praticamente questo anello della colonna vertebrale, oppure se c'è solo questa malformazione della vertebra, altro non ti posso pagare. Non è che lo devi fare a me, no, lo devi fare a te per la tua salute, mica per quella degli altri. E gli altri già lo sai che non le frega nulla, davvero, diranno, no, magari ci sarà già qualcuno che è anche contento, dirà, ah, mi Claudio è fuori dalle scatole, adesso possiamo giostrare come vogliamo. Ehi, qualcuno però, ma sono molto pochi, anche uno è più niente, capito? Anche stamattina, davanti a Franco ho chiamato e non sto combinando un accidente perché le manca il perno, non perché io sia bravo, ma perché riesco a trascinarmi dietro le persone e fare tutti assieme quello che bisogna fare, ma quello le persone se ne fregano, soprattutto i responsabili di squadra se ne fregano, se ne fregano anche gli operai, capito? Invece quando c'è il responsabile di squadra, il caposquadra, il geometra che cerca di portare avanti la baracca in maniera molto tranquilla, serena, scherzando e ridendo, però durante la giornata sono stati fatti determinati lavori molto importanti e l'azienda è tranquilla, capito? Invece in quella maniera ci sono persone molto menefreghiste, non mi raffutti nulla. Infatti già me l'ha detto il mio collega stamattina, quando rientri da sushi, la scrivania a lui, ad Olmedo, al depuratore che è piena di carta, documenti da evadere, da fare, relazioni, controrelazioni, magazzino dice vuoto. Se tu immagini comparato una matassa da 50 metri di cavo, di cavo da 6 mm, perché serve a Marco che dobbiamo fare un'antenna. E l'altro giorno ho telefonato, ho detto al mio collega, quello che abita qua, Carbonazzi, ho detto, vabbè, portami quella mattaccia di filo che mi serve, quella mattaccia di filo. Si la piglia dall'elettricista perché non c'era a capo per passare in un quadro elettrico. Io neanche ne sapevo che era il suo, figura di lui, compreso. Perché dice che c'è il magazzino vuoto, che nessuno ha fatto ordini il mese scorso, e c'è il magazzino vuoto, non c'è manco una presonanza. Gatta gatta, gli è suonato c'è nel mondo, già, è proprio bello allora adesso, quando il gatto non c'è il topo balla. E tu credimi, guarda, lo giuro come un fratello, che io tutte le volte che vado in malattia o mi assento ho il terrore di rientrare. È più il terrore di rientrare che quello di andarmene. Capito? Perché quando sono rientrato l'altra volta che mi ho fatto oltre 25 giorni a casa, sono stato 20 giorni lavorando nella carta, a chi non si comprendia, lo va a buco il loro. Non riesci a farci manco la giornaliera, capito? Se la fanno fare dal commercialista, dal ragioniere esterno, quello che ci abbiamo a Trunco Reale, chi non le comprende non accidente. Cazzo, a questo punto so. Arriva, a questo punto so, da poi tant'anni che sono in chiave travagliando, non si sa ne va manco la giornaliera, non si sa ne va nulla. Ma una persona solo lì mi può stare appresso, capito? Una persona solo. Ed è un conduttore elettricista che abbiamo che ci fa pezzi per tutti, ma pezzi a vero, appesi a vero. Gli altri sono tutti dei burattini, qua, so capito? Compreso il mio superiore, che tra l'altro è anche una donna, quindi non è comprendo, è proprio un accidente, perciò lasciamoli fare, se no fanno pezzi. Vedrai quando ci sarà l'unificazione in Abbanoa cosa succede e chi si impianta. Più di uno dice, ma lei chi è tizio? Vada a zappare, mi dirà giù che c'è posto, che intanto altro non sa fare. Ci sono anche sui vetri, proprio così, Non hanno, Mario, il senso della... nessuno è bravo, io non mi reputo bravo sul lavoro o da nessuna parte, però io sono attaccato al lavoro e l'attaccamento al lavoro vuol dire tanto, perché puoi dare a te e agli altri quello che praticamente serve per andare avanti durante la giornata, capito? Pagando duri vai a un capiquadra che se ne fotte, dici guarda che mi serve quello, e domani, guarda mi serve, e domani, tanto di qui e poi un'altra scrivania mia, capito? Già si arrangia Claudio quando viene, e poni chi vedo. Quando vengo poi come sta giubato la carusca, ci butto tutto dentro una busta di Mondezza e sotto darla al tuo responsabile. Cosa la Mondezza? No, quello che hai messo nella scrivania mia, e vai, daglielo già si arrangia lui e mi gli le balle. Quando tu non vedi la ricetta a Claudio, boh, ma se uno sente male, cioè non è che devi la ricetta a Claudio, se vedeva un intervento, se vedeva una cosa, non è che puoi ricetta la ricetta a Claudio, no? È come allora Roberto, quando è stato male, cosa dovevano dire? E aspettiamo a Roberto. Il lavoro deve andare avanti, cioè non è che se devi paralizzare tutto a chi manca una persona, no? Oppure fa una montagna di bambini che da voi non si fa nulla. E poi lo dico perché ti deve qui, o si mette, vai. Non cambia quadra per pure un bagaglio qui. Cioè, non è un cambia quadra, si deve girare i denti e boh. Ah, se ne lavano le mani, Mario. Ah, se ne lavano le mani, capito? Se ne lavano proprio le mani. Alla fine poi non si riesce a capire un accidente. Tutto lì. Vai, Robè. Oh Claudio, di questo fatto che è uscito dal giornale dell'inquinamento, è una competenza vostra o non c'entrate niente? E dipende, ma quello che hanno trovato quelle tracce di, come si dice, a Trunco Reale, o no, o ad Alghero, dov'era? No, proprio qua a Sassari, nel depuratore, non so quale depuratore, però nei ruminanti dice che state attenti a non bere perché ci sono delle tracce di sostanze tossiche. Un sacco di pesceria di quel giornale, sostanze tossiche noi non ne abbiamo, capito? Il depuratore di Canica è della Sinos, Sassari è della Sinos il depuratore, noi pompiamo acqua a Trunco Reale e Leggia, però noi potabilizziamo l'acqua, quindi i nostri valori sono realmente affidabili perché giorno per giorno è controllata dalla USL l'acqua, quindi. E poi noi roba calcerogena non ne abbiamo, noi lavoriamo col l'ipoclorito di sodio per quanto riguarda la depurazione, il clorito di sodio per quanto riguarda la potabilizzazione. Altri reagenti, abbiamo il PAC che serve per, praticamente proprio per abbattere, per la batteriologica, che è una sostanza come la, è una sostanza praticamente come il polielettrolita, non so se lo conosci, per abbattere praticamente i batteri, tutte le cose che si formano nell'acqua, e il calcareo stesso. E poi vabbè, c'è la soda e l'acido cloridrico, capito? Quindi noi roba cancerogena ne abbiamo. In tutto quello che è potabilizzazione si lavora con reagenti, che praticamente sono tutti reagenti chimici che vanno diluiti e controllati giorno per giorno, tutte le gradazioni e tutte le cose che vanno seguite. Kappa, ma la macchina non si usa più adesso per potabilizzare, e quindi per quanto è stato lui è tutto automatizzato ormai, è vero questo? Ah beh, certo, sì, noi ci abbiamo in tutti i vasconi, ci sono le pompe dosatrici, dove la varecchina, non è varecchina, il clorito di sodio praticamente serve per potabilizzare l'acqua, che è il cosiddetto biossido, perché il clorito di sodio a contatto con l'acqua diventa biossido, capito? Poi c'è invece l'ipoclorito di sodio, che quello serve nei depuratori per abbattere proprio i cosiddetti reflui d'ingresso ed uscita del depuratore una volta che sono lavorati, capito? Per far sì che l'acqua abbia una concentrazione, in modo che raggiunga una concentrazione nei livelli di guardia. Ecco, non è che tu in un depuratore hai l'ingresso che sono i reflui delle fogne. Questo ingresso lavora in un cosiddetto vascone di ossidazione, dove l'acqua viene praticamente soffiata con delle soffianti oppure coagitata con delle giranti, dipende dove, in quale depurazione. Nel nostro, ad esempio, il depuratore che gestisco io non è né ossidazione e neanche giranti di quelle a turbine. Sono delle vasche di sedimentazione e a decantazione. Quindi man mano che rifluentano, entrano in questa vasca, cosa succede? Decantano i fanghi, la melma, e poi praticamente ogni 10 giorni, 15 giorni questa melma va messa, questi fanghi così chiamati vanno messi dentro queste vasche di accumulo, no? Nei letti di accumulo noi li chiamiamo. Una volta che sono secchi poi vanno palati con le gru e portate praticamente per fare concime, quelli lì. L'acqua che rimane va decantata, mandata in un altro sedimentatore, lavorata, clorata e mandata in uscita, quindi ci sono le uscite ai fiumi, le uscite ad altri vasconi per recupero di irrigazione e così via. Quello per quanto riguarda la depurazione, mentre la potabilizzazione invece va lavorata come ingressi, sedimentazione. Ci sono tutte le vasche di accumulo dove ci vanno, poi ci sono tutti i reagenti che servono per far sì che l'acqua raggiunga un colore praticamente adeguato, poi la UCL la controlla eccetera, ma comunque ci sono un sacco di procedimenti, se no ci vuole 3 giorni a spiegarselo, ma nel mio lavoro, che me lo gestisco io, me lo controllo io, me lo faccio io, il processo dell'impianto è quello nella depurazione, quindi ingresso, sedimentazione, ossidazione e poi va praticamente mandata via o nei vasconi per l'irrigazione ai campi oppure va mandata ai fiumi, però deve essere sempre controllata, ci resta una percentuale di uscita per far sì che sia buona di ammoniaca o non sia troppo alta di ammoniaca, non ci siano delle batteriologiche, perché se tu la mandi nel fiume muoiono gli animali, quella è l'uscita che il comune sa che arriva al depuratore, che ha detto buono in galera, a me fa prima. Comunque è improbabile che esca acqua non pura, diciamo, dal potabilizzatore, cioè è impossibile. C'è un'uscita, voi un controllo lo fate sempre tutti i giorni questo? Guarda, un conduttore che fa dalle 6 alle 2, a Trucco Reale, ad esempio, ci sono tre turni, dalle 6 alle 2, dalle 2 alle 10, dalle 10 alle 6, no? Due conduttori per turno, anzi la mattina ce n'è quattro, nel pomeriggio e nella notte ce ne sono due. Ogni ora, tassativamente ogni ora c'è un registro e un laboratorio, si fanno tutte le analisi, capito? Tutte le analisi. Quindi c'è l'acqua, la potabile, c'è la grezza, c'è la filtrata, c'è la chiarificata, perché ci sono anche i chiarificatori dove ti segnano la gradazione dell'acqua. Ovvero io ho aperto questa alcoghina, questo è il bidiglino, ovvero alcoghina, addirittura c'era anche la grezza, perché la grezza arrivava dal consorzio di bonifica, l'acqua, e poi c'eravamo i pozzi, e controllavamo anche i pozzi, quindi noi c'eravamo i pozzi di sollevamento, la grezza, l'alcoghina, la filtrata, la chiarificata e la potabile. Questi controlli di tutti questi reagenti vanno controllati ora per ora, quindi un turno di dalle 6 alle 2, di 8 ore va controllata 8 ore consecutive, l'altro turno deve andare 8 ore consecutive al controllo, perché c'è un registro di conduzione dove vanno segnati tutti i valori dell'acqua. La mattina, quando arrivano, il giorno successivo, quando arriva la vascella, deve controllare tutti i valori che tu hai segnato nel registro e controllare se tu realmente hai fatto queste analisi, capito? Gaffa, quindi possibilità di errore è quasi nulla, diciamo. Guarda, non esiste, si va in galera se tu scrivi che hai una percentuale di 0,20 di cloro in uscita, mentre invece stai clorando più di quello che tu hai scritto, non si può. Se ne accorgono subito, immediatamente, hai capito? Puoi saltare il posto di lavoro. Ciò che scrivi deve essere reale. Se c'è un qualcosa, un'anomalia che non va bene, c'è il perito chimico, quindi fa le analisi lui, trasmette subito il fax alla USL, la USL a sua volta all'ESAF, e si mette in moto tutta una catena per far sì che l'impianto rientri immediatamente a norma, perché se non rientra a norma deve essere immediatamente spento, controllato dove è il problema. Infatti tante volte il tribunale dice mancherà l'acqua dalle ore alle ore dall'impianto di Trucco Reale, Olbidiniso, Colina, per i controlli alle condotte, perché molto probabilmente può succedere che si può bucare una condotta. Cosa succede? Che l'erogazione dell'acqua in condotta viene aspirata perché c'è un buco. Noi immaginati che mandiamo in rete, mandiamo in condotta 800-900 metri cubi al secondo, capito? A secondo, quindi secondo l'impianto anche 1200 metri cubi al secondo, quindi stiamo parlando di tubi da 70-82 pollici, e quindi sono alti quanto noi. Perciò tu immaginati una pressione del genere, quando si rompe il tubo, aspira aria, si porta dentro magari l'impurità che c'è, eccetera, e quindi va in condotta. Andando in condotta ti sfasa i valori, e quindi automaticamente il conduttore si accorge che i valori non sono più quelli che devono essere a norma, ma c'è un problema per forza da qualche parte. Allora, tramite la sala di controllo, perché sono le sale di controllo, condotte per condotte, ci sono tutte le spie, ecco, lui vede, ecco, qua c'è la spia accesa rossa, perché va a verificare, ecco, qua c'è una perdita, allora questa condotta va chiusa, segnalata subito all'impresa, saldare, fare, quindi è chiaro che devono chiudere l'acqua, abbassare la pressione, perché altrimenti mica possono slangiare una frangia che ha 400-500 fori da chiave da 30, abbattere da 32 mi pare che sia, è una cosa allucinante. Ti biglierei la faccia di sicuro la ginara. Capagliano, però c'è da dire una cosa, voi tutti questi controlli li fate alla fonte, diciamo all'inizio della conduttura, è vero? E più avanti, per dire a 3 km, se c'entra un'infiltrazione dal terreno o qualcosa del genere, come va a finire? Ma noi abbiamo anche chi fa le ispezioni di condotta, quindi persone pagate, operai pagati che fanno i controlli giornalieri delle condotte che sono nelle campagne, quindi sono due persone, quattro persone, cinque persone addette, adesso non so quante siano. Per esempio nella mia zona dove sono io, nella zona di Santa Maria La Palma, lì Olmedo, quella zona lì, ci sono due conduttori che dalla mattina alle 8 fino alle 2 loro camminano per le campagne, sono pagati per quello, con il misuratore di condotta, perché c'è un misuratore, capito? e fanno questi controlli così. Questo è, questo chi è? Se qualcuno è, non so se sta. E fanno questi controlli così, Roberto, capito? Nel caso c'è qualche perita, loro subito immediatamente la comunicano alla società, e la società la mette in moto tutto il meccanismo, con gli scavatori, con tutto quello che serve per riparare il danno che c'è dentro le campagne, non la prima volta. E a Santa Maria La Palma dove sono io all'ordine del giorno. KK, riprendi Mario, ti va? Ci sei Mario? Mario è andato a farci un caffè, l'ho annoiato con queste cose, stavo dicendo a Roberto. Ciao, vai, ti porta. Ma mi hai annoiato. Tutte cose interessanti che è bello anche sapere, ma non io no, è bello a sapere tutti, almeno sappiamo cosa beviamo e cosa non beviamo. Cioè beviamo, più che altro beviamo no, perché oggigiorno ci compriamo tutti l'acqua minerale, però la mettiamo sempre dentro le pentole e vanno a mangiare. Tutto qua. No, sono andato nel QTH a farmi una fischiata, piccolino. Giappa. No, vabbè, tu sai che quando noi buttiamo l'acqua del rubinetto, state tranquilli perché l'acqua del rubinetto che noi abbiamo sia dal Coghinas, perché noi pompiamo dal Coghinas, il Coghinas oramai dà l'acqua a tutti perché il Bunari è chiuso, quindi il Bunari non esiste più. Perciò qui a Ciassere noi abbiamo l'acqua dal Coghinas, a parte i pozzi, che abbiamo quindi la Gresa, la Consorzio di Bonifica, e in più abbiamo l'acqua anche del Bidiginzu, quindi ci aiutiamo. Bidiginzu, Coghinas, Temo e basta, perché sono le tre fonti da dove noi prendiamo l'acqua. Sono tutte acque che uscendo dai potabilizzatori, tipo per Sassari Trunfo Reale, per Alghero Monte Agnese, per la zona di Romana, Ittiri, tutte quelle zone lì, Bidiginzu, che sono dei grandissimi potabilizzatori, sono quasi dei paesi, perché Trunfo Reale è grandissimo, è un grandissimo impianto di potabilizzazione, come Monte Agnese, come il Bidiginzu, che all'interno addirittura ci sono anche le case dei custodi e di tutto. E l'acqua è al 100%, si può bere, noi siamo fissati che l'acqua del rubinetto non si può bere. Mio suocero è una vita che beve l'acqua del rubinetto, è una vita, non gli ha mai fatto male, perché è meglio di quella che compriamo, meglio, molto meglio, credetemi, perché c'è la gradazione sua di sodio, c'è la gradazione di tutte le sostanze chimiche che possono essere utili per la nostra salute, capito? Quindi non c'è nessun problema. Poi il fatto che uno non la beve perché non le piace è un altro discorso, però è pura e sana, non c'è nessun problema. Quando uno dice ma ci tende il viaggio di Varecchina, la Varecchina ghista, non è Varecchina, non fa di male ghista. Quello è clorito di sodio, che è la sostanza migliore che l'acqua deve avere per la nostra salute, perché se non c'è quella non c'è nessuna sostanza chimica che la possa superare il clorito di sodio, quella ci deve essere. Poi una volta bollita l'acqua, Mario, anche se noi diciamo non è buona, una volta bollita che raggiunge 90 gradi, l'acqua ha ammazzato tutte le sostanze che ci sono all'interno. Qualsiasi tipo di sostanza chimica viene abbattuta a 90 gradi. Non vediamo come l'acqua del rubinetto, è che purtroppo ci sono molte condotte che sono non vecchie, non sono stravecchie. E cosa succede? Che tu apri il rubinetto e te ne sento il pezzo della ruggine, e l'acqua esce bianca che sembra latte, e tutte quante queste cose, capito? E la gente rimane un pochettino così, un po' allibita, perché dice, cazzo, chi sarà qui così bianca? cosa lei o cosa di Bussi lei va, hai capito? Ed è per quello che la gente non beve più acqua del rubinetto, ma non perché faccia male, perché si vede tutte queste cose che c'hanno dal rubinetto. Sì Mario, ma il discorso è quanto apre il rubinetto e l'acqua anziché essere limpida, bella, cristallina, è bianca. Quella vuol dire che la pressione, che la condotta era in pressione, automaticamente ti porta a questa schiuma che fa così chiamata, capito? Però tu la lasci decantare 5 minuti, l'acqua torna com'era. Per certo che non è la prima volta che succede da noi, che magari trottano una condotta, poi la aprono tutta assieme, io a volte mi incazzo perché dai adito così a scoppiare le condotte, perché la pressione si dà piano piano, non si apre tutta l'uscita della cinesca, non si aprendo un rubinetto d'Eva, stai aprendo pressione d'acqua, capito? Perché dove sono io, lì ci sono anche 30-40 atmosfere su una sala cinesca, se ti dovesse succedere chiuderla tutta e la apri tutta assieme, rosendo invece la condotta secondo i punti che la puoi trovare debole, la spacchi in due, quindi le cose vanno fatte moderatamente. Molta gente invece cosa fa? La apre tutta assieme, automaticamente l'aria che si è formata nella condotta assieme alla pressione dell'acqua hanno questo impatto e causa dai rubinetti, quindi quando tu apri il rubinetto causa questa, ma non è sporcizia, questo colore, cambia questo colore, ma è solo aria assieme alla pressione dell'acqua che la forma. Non è perché poi una volta che arriva, che tu la lasci scendere, l'acqua diventa nuovamente cristallina, bianca, non so se a te è mai successo Roberto. Confermo, è giusto, giustissimo Claudio questo. Ti è mai successo a te? Tantissime volte, lo sapevo di questo fatto qua, e la pressione è troppo alta, è schiumosa, però fa abbastanza da un minuto neanche, ritorna come la prima. Però io devo dire una cosa, io l'acqua del rubinetto l'ho sempre bevuta quando ero a casa di mia madre, sino prima di sposarmi, l'ho sempre bevuta, buonissima. L'acqua di dove sono io c'ha un gusto completamente diverso e siamo a pochi metri. Quell'acqua di mia madre è quella della vecchia condotta, che ci sono le fontanelle delle Adua, non so se le hai mai viste, mentre questa di casa mia ha un gusto molto ma molto diverso, infatti mai bevuta. Perché quella che è praticamente collegata a tua madre è della vecchia condotta che scendeva dal Bunnari e quindi è rimasta sana quella condotta, perché praticamente adesso è deviata da via Leadua quella. Non so se vi ricordate quando hanno aperto la strada di via Leadua, lì se qualcuno si prendeva la briga andare a vedere dove avevano aperto, lì c'era una derivazione che praticamente sale. Che deviava praticamente la condotta nuova che hanno fatto, collegata adesso, poi tra l'altro stanno collegando tutto, non so se vi siete accorti, ma a breve aprirà il nuovo acquedotto, quello che c'è, quella casa vecchia che c'è davanti allo stadio, lì sotto, a 30 metri sottoterra, 30 metri sottoterra, ci sono i vascoli dell'acqua, attenzione. Quindi sono delle cose anche belle da vedere, forse mai qualcuno si è preso la briga di andare a vedere. Però lì avevano fatto una deviazione dove l'acqua praticamente, anziché partire dalla parte di Viale Adua a basso, sale verso Piazzale Cigni, capito? Quindi quella derivazione tu l'hai presa in pieno, perché adesso l'acqua viene deviata dalla parte tua, mentre il tuo amato giustifica della vecchia condotta scendente. Capa, no, quel pezzo di coso dove adesso fanno il museo dell'acqua, mi sembra, la costruzione Liberty che c'è di lì è veramente bello. Quella arriva fino al Bunnari, non è vero? Capa, quella arriva fino al Bunnari, sì, fino al Bunnari. Io non l'ho mai fatta tutta a piedi, ne ho fatto un pezzettino, ma mio zio mi ha detto che lui che ci ha lavorato con mio nonno, che era muratore, dice hanno fatto dei lavori, dice ce l'hanno fatta tutta fino a Bunnari, sono mi pare 8 km, mi pare una cosa del genere. E guarda che il Bunnari era molto bello quando c'era il praticamente lì c'erano delle pompe di sollevamento che sollevavano l'acqua a tronco reale e per aiutare, cioè si faceva sì che questo vascone, siccome è un vascone artificiale, con le piogge si riempiva durante l'inverno, capito? e quindi acqua piovana decantata e pompata con le pompe di sollevamento ad un impianto di potabilizzazione, e voleva dire tanto per Sassari, perché sono delle acque naturali che poi vengono lavorate e messe in rete. Oggi con la chiusura del Munari si sta facendo, credo, un parco così, però è molto bello, non so se ci è mai andato adesso, ma facciamo tutti i giardini, tutte le cose, lì dovrebbe nascere un grandissimo agriturismo anche, a quanto so io, avevo visto il progetto quando ero qua alla circoscrizione, e nascerà un bel parco così, molto molto bello. E se tu vedi il vascone ti fa venti, è grandissimo quel vascone che c'è adesso, è praticamente asciutto, ma è grandissimo, era una cosa enorme, capito? Ma di Munari, però Munari lo conosco molto bene, ci andavo un sacco di volte, e si può dire quasi tutto finito quel parco di lì, ed è un peccato perché io l'ho visto già dall'anno scorso, chiuso, tutto pronto ma tutto chiuso, però non so quando l'altro. Ma non lo so neanche io sinceramente, non lo so, io ero rimasto indietro perché quando facevo parte qua del settore di Sassari ci andavo spesso, poi mi avevano trasferito al settore di Arzachena praticamente, quindi facevo parte lì a Pesua, facevo servizio al Tuginas e quindi mi occupavo del consorzio di bonifica lì del Tuginas, capito? E praticamente andavo spesso lì dove ci sono le centrali dell'Enel, dove anni fa anche loro avevano svuotato i vasconi per riparare le paratoie, avevano buttato in mare non so quanti milioni di metri cubi d'acqua, infatti era uscito un articolo in giornale che nonostante la siccità l'Enel buttava via l'acqua come se fossimo in campo di concentramento, insomma c'era un articolo molto molto brutto per quanto riguarda quella manovra. E niente, poi vabbè, c'è la diga dell'Iscia, che quella fa parte sempre del consorzio di Arzachena, ma ce ne sono tante, c'è anche quella di Ghisu che è molto grande lo stesso, e ne abbiamo di condotte sparse in tutta la Sardegna, non c'è problema. Però l'acqua che noi stiamo potabilizzando è acqua buona, non è acqua che batteriologica, che possa avere sostanze cancerogene, sono cose che i giornali scrivono ma non sanno manco quello che scrivono. Guarda. Kappa, sicuramente è molto più sicura l'acqua del rubinetto che l'acqua che prendiamo in bottiglia, che almeno le analisi le fate tutti i momenti, quelle di cosa mi pare la fanno una volta ogni paio di mesi con le acque imbottigliate. Ma guarda, il fratello mio socio era il titolare della San Martino, e io ti posso dire che loro fanno praticamente, hanno il chimico lì e man mano che imbottigliano l'acqua, una volta che l'acqua è lavorata, perché loro hanno le fonti, quindi caricano dalla fonte e poi va lavorata l'acqua, no? Quindi anidride carbonica, tutte le sostanze che vanno inserite per poter fare l'imbottigliamento, loro man mano che imbottigliano c'è il chimico che fa le analisi, altrimenti la UHL non le permette di etichettare l'acqua e metterla in commercio, quindi ci sono tante cose che la gente non sa, come la smeraldina, come la sete fluente, come a Santa Lucia, tutti quelli che imbottigliano l'acqua hanno un chimico della USL lì, pagato lì, man mano che lo stabilimento decide di imbottigliare, il chimico deve fare le analisi, se il chimico dice quest'acqua non si può imbottigliare, viene sospeso automaticamente l'imbottigliamento. Sì, ma dico, i controlli non sono, perché tu mi dici un'ora fa un controllo, di lì i controlli sono molto più elastici, diciamo. Sì, beh, rispetto a noi le case come la Smeraldina, la San Martino, eccetera, che imbottigliano l'acqua, non è che ogni ora fanno le analisi. Noi siamo costretti, perché la mandiamo in rete, quindi essendo un impianto di, non di imbottigliamento, ma di reflui continui, perché è l'acqua che pompa tutti i momenti, quindi tu immaginati 800 litri al secondo mandati in condotta per tutta la città, quindi chiaramente ogni ora devi fare analisi, perché da un'ora all'altra può succedere qualsiasi cosa, capito? Come ti ho spiegato prima, si può rompere un tubo, aspira fango, si può bloccare una pompa di sollevamento, quindi automaticamente l'altra pompa non ce la fa, quindi usufruisce magari il calcareo che si è depositato sotto le pigne delle pompe di sollevamento, quindi può succedere di tutto, perciò ogni ora vanno fatte le analisi, ogni ora. Secondo il conduttore, io per esempio quando facevo conduzione al Covinas, io anche ogni mezz'ora facevo i controlli, le analisi dell'acqua. Sono tutti gli strumenti necessari, è chiaro che devi saperli usare, però io l'ho sempre fatto, eppure non sono un chimico, però da quando io ho preso servizio nel settore idrico mi hanno insegnato, la prima cosa che mi hanno insegnato è fare le analisi che permettono al conduttore di fare conduzione in impianto. Ma quella torre della Massa Monte Bianchino, cos'è? La torre idrometrica, così si chiama? Sì, esatto, la cosiddetta boccia di leva. Quella chi la deve alimentare con la torre? Ma cos'è, la caduta, l'acqua piovana o cosa c'è lì? Quello è un serbatoio di livello, loro lo chiamano serbatoio di livello. Sì, per dare pressione a qualche zona scoperta, così? Esatto. Ma deve servire per qua a Sassari o per qualche paese? Quella, quelle torri, hai visto quant'è alta? E lì ci sono centinaia e centinaia di metri cubi d'acqua dentro, non è vicino, capito? È un livello di un pozzo praticamente, lì sotto c'è un pozzo ed è come una pigna quella, capito? Quella è una pigna sospesa nell'aria, è un livello galleggiante, quella arriva sino a Sennori. Una volta ce n'era anche uno al monte, o sbaglio, ti ricordi quella c'era della Grazia d'Aletta? Esatto, quella era. Si mette nei punti più alti, no? Per far sì che a caduta riesca ad alimentare quelle zone che magari non hanno molta pressione. È una cosa enorme. Ecco, di lui, siccome mio fratello abita lì vicino, diciamo sarà all'area a 200 metri, lì si andava a prendere tutto pieno di cose fossili, non so se sei mai salito di lì. Ce n'è fossili lì, ce n'è. Ah, quella mi pare che sia 40 metri, una cosa del genere. Aspetta, di lì, sanno che non va bene ancora a bussare i ripetitori telefonici, ma non saranno molto. No, non si può mettere sopra, Robè. Non si può mettere perché, non so se tu l'hai mai vista come sono fatte sopra, non c'è tappo sopra, C'è praticamente un fondo fatto in cemento armato con una botola. È aperto quindi questa storia? Sì, c'è una botola che si apre per fare i dovuti controlli. Io ne ho controllato parecchie di quelle. Addirittura ce n'era una quando ero a Cagliari che era a 70 metri, quindi salivo a 70 metri e controllavo il livello del galleggiante. Gaffa, era già in funzione quella roba? Sì, quella era nata veramente per alimentare, praticamente l'avevano inizialmente fatta per caduta da Osilo, no? Sempre dal Bunari, poi invece quando è stato chiuso il Bunari è stata fatta una deviazione dal Covinas. Vedi che adesso c'è un posto sotto di lì? Eh sì, certo. Scavato, cioè l'ho scavato da loro o la falda naturale? Noi con i rilevatori che abbiamo rileviamo a sonde dove ci sono dei punti delle sorgenti naturali, quindi si cola, si scendono con le sonde, mi pare che lì si è sceso a 160 metri, 816, 160 metri sotto quello. Ecco, quindi dentro dell'acqua tutta la gente vicina la fa. Allora, mio fratello sarà, la senza esagerazione non sarà più di 300 metri in aria da lì. No, perché sono delle falde che poi vanno incamiciate, con l'incamiciatura stessa poi l'acqua sotto praticamente si devia da sola, no? Una volta che tu le fai l'incamiciatura e che scendi, che ti fai, metti la pompa sotto, quella pompa tira per far sì che il livello sia alto. Una volta che il livello è alto, che ha raggiunto che il galleggiante praticamente si blocca, e la pompa non tira più, rimane ferma, va in funzione quando il galleggiante si abbassa, è come un vascone. Ma anziché fare un vascone, perché l'acqua di rette, no? I vascone si fanno sull'acqua di rette come ci abbiamo noi. Noi qua in condominio ci abbiamo due vasconi, uno è per l'antincendio che è da 25.000 e l'altro è per l'acqua di rette che è da 30.000, capito? Anche lì arriva l'acqua di rette però dalla strada, no? Quando il vascone è pieno il galleggiante si blocca, non entra più di acqua, capito? Se dovesse mancare l'acqua allora noi usufruiamo di questi 30.000 litri che abbiamo fino a quando arriva l'acqua, e quindi man mano che si consuma poi entra di nuovo e si riempie, e così è quello lì. Quello là è a livello praticamente per i pozzi, e questi i vasconi così si fanno per l'acqua di rette, no? Allora, quando io ero molto amico di Coso, del custode dell'acquedotto, l'ha conosciuto Alessia, la Ciocutu. Io noi da ragazzini ci andavamo sempre, gli ci facevamo vedere tutte le pompe e tutto quanto. Ma che caspita, c'è un Maciocco, l'ho conosciuto sì. E io poco ci ho lavorato qua a Sassari, io appena sono entrato in questo concorso ero a Cagliari, ho fatto un anno forse a Cagliari. Poi da Cagliari sono andato a Perfugia, ho fatto servizio a Perfugia 3 anni e mezzo, forse 4, no, 3 anni e mezzo ho fatto al 3 anni ho fatto al potabilizzatore. Poi da Perfugia mi hanno mandato a Nur Viterbo e Bulzi, facevo tutti i controlli dei depuratori e pozzi, e sollevamenti stradali, che poi sono anche sollevamenti stradali. Poi da lì mi hanno mandato ad Alghero e sono ancora ad Alghero. Spero di tornare a Sassari il più presto possibile, ma con questi casini che abbiamo anche noi non è che si capisce molto. Dabbè, già sei abbastanza vicino, diciamo, non sei lontano rispetto a dove eri a Cagliari, già sei lì. Claudio! Cos'è mai? Nei vostri palazzi l'acqua di rete arriva fino all'ultimo piano, Solo che quando aprono magari il rubinetto tutti, per dire, non so, la mattina alle 7, che tutti si preparano per uscire e i rubinetti si può dire che sono tutti aperti, allora ci avete l'aiuto dell'autoclave, ma solo in quell'ora lì, se no ci avete, perlomeno dove ho cambiato io quelle pompe, ci hanno circa 5 bar di atmosfera di pressione di acqua. Esatto Mario, noi il nostro impianto addirittura c'è anche il dissalatore sotto, è un impianto molto molto bello. Ci abbiamo due pompe della Lovara che praticamente sono da 4 atmosfere l'una, 4 e 4 8. Però il nostro idraulico, quello del condomino, le sta facendo lavorare in serie, quindi le ha accoppiate e fa mandare solo 4 atmosfere. Una volta, cioè 8 atmosfere, sono andato a aprire, a farmi la luce, a Gemma mi buca un gabbo, e quindi siamo lamentati, c'era troppa pressione, abbiamo messo un riduttore di pressione e abbiamo abbassato l'atmosfera. Sì, 4 atmosfere anche noi abbiamo, perché entra in funzione automaticamente, come c'è molta richiesta d'acqua, parte l'autoclave e quindi ti manda l'acqua a 30 metri, 40 metri di altezza, ma con una pressione allucinante. Ho visto quella che ho piazzato io insieme al capo tecnico della nostra ditta, è vero, ogni pompa arrivava a 7 atmosfere, però sono tutte regolarizzate in modo da non sfruttarle mai al massimo, e arrivavano a 5 bar di atmosfera per portare l'acqua su. E poi sono state collegate alternate, cioè una volta si mette in moto una di pompa, una volta si mette in moto l'altra. In quel condominio gli abbiamo piazzato 4 pompe addirittura, però sono tante famiglie. Esatto. Sì, beh, anche da noi qua siamo tanti, abbiamo due gruppi di motori lo stesso, però in alternata, così come hai detto tu, un po' funziona un gruppo, un po' funziona l'altro gruppo, capito? perché altrimenti c'è troppo consumo. KK, ma allora è Mezzanotti. Ma è Mezzanotti, è per il dato della battista. Ma sì, io qua nel mio orologio della station sono le 23:54, può essere. Davidino mi ha detto che è quasi mezzanotte. E allora fermo una cosa, Roberto, riprendi, ci salutiamo e ci andiamo a nanna. Se no qua mia figlia non si curi che domani non si invece andare in cura. Mi hai tolto la parola a bocca, beh, buonanotte a tutti, buon lavoro per chi deve lavorare, se no buon tutto. Ciao Claudio, ciao Mario, ciao a tutti quelli che stanno ascoltando. A domani eventualmente, ciao. Cappa, allora riprendo io. Ciao Roberto, ciao Mario, buonanotte. Io vi saluto e me ne vado anche a nanna, dai. E così domani mattina mi alzo un po' presto, anch'io. Andare al barbiere, fare un sacco di cose. Ci sentiamo, già ci vediamo domani mattina, Roberto, io ti faccio quel microfono. Ciao Mario, riprendi QRT per me. Saluto tutti quelli che stanno ascoltando, bye. KK. Ciao Roberto, buon QRT. Buon 144 e a risentirci alle prossime. Altro tanto per te qua. Buonanotte, buon tutto. E ce la riascoltiamo alle migliori. Ciao ciao. Gappa Mario, ciao ciao domani. Ciao Lu, ciao domani, ciao ciao. Ciao Luca, anche a te buonanotte. Ma così intende che farò il microfono sotto il cuscino, eh? Ah Luigi sì, mi sembravi Luca. Ciao Luigi, buonanotte. Ascoltando Sammy, scusa se ti ho annoiato lì, ma discorsi tecnici di trasmissione. Ciao. Gaffa, ciao, buonanotte.